si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çaplatıyor. Ağzına sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip kıran yılanı deliğinden çıkaran. Ci sono quella parola harem, a me colpiscono sempre i dettagli, che c'entra l'harem? Cioè, o è scelta a cavolo, come dire corte, come dire persone copte, perché poi è rafforzato da quello che dice, sì, cioè coptati, quasi più, fosse una corte. Corte si dice corte, sì, quello harem è ha un senso di servizi sentimentali, sessuali, maritali di una serie di signore a disposizione di un sultano. Il messaggio, almeno per chi studia o vuole decodificare queste cose, è: siete una manica di cialtroni e prima sparite o vi date una regolata, vi responsabilizzate e meglio è. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. 18 20 e 30 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta. Ben ritrovati da Alessio Maurizi. Questo che avete appena sentito era Paolo Mieli sull'attacco del segretario CEI, ormai lo sappiamo, l'abbiamo sentito, insomma questo botta e risposta tra politici e Vaticano e la Chiesa. L'AREM, il concetto dell'AREM, dice Paolo Mieli, ma perché Galantino parla di AREM? Forse si riferiva al noto ex presidente del Consiglio che amava circondarsi di belle donne, così come oggi molti politici amerebbero circondarsi nella loro corte di gente che li asseconda e non di persone di un certo livello. Sentiamo voci dai talk show estivi, un po' diciamo così ridimensionati, sottotono, ma Giachetti, Partito Democratico. Se lei è l'unico a fare a dare l'esempio, Giachetti, l'ha dato più volte, ci ha parlato della rinuncia all'appartamento, spiega perché non prendete una posizione come partito, perché non, i presidenti, i vicepresidenti del PD non rinunciano tutti hanno all'appartamento? Tutti. Tutti? Sì. Tutti all'appartamento? Non, tutti hanno rinunciato all'appartamento, tutti facendo la classe, non usino lato blu, quindi voglio dire, purtroppo le cose accadono e voi non lo sapete perché è chiaro che non fa notizia e non ve ne frega niente del fatto che no, ci interessa i comportamenti. Se vi interessasse voi avreste messo nel servizio, però ci stanno pure ci quelli. Ci sono sicuramente ovviamente, ovviamente, ma io lo so, ormai va così. Giachetti, il PD dice: noi, tutti i parlamentari del PD hanno rinunciato all'appartamento. Basta questo, cari ascoltatori, 800 24 00 24 per tirarsi fuori dall'accusa di appartenere a una casta. Sentiamo invece Don Mazzi che a proposito di una sede, quella importante del Vaticano, sentite che cosa dice. Se potessi dire al Papa di vendere il Vaticano, domani mattina lo farei. Addirittura, dove trasferirebbe il Vaticano? Un palazzo, in una... Ad Assisi, un bel bastone, un paio di sandali. Vendere il Vaticano non l'aveva mai detto nessuno, ma è un'idea tanto semplice quanto così semplice che non lo farà mai. Intanto però bisogna ricordare che Papa Francesco non abita più in Vaticano, abita dalle suore fuori dai palazzi importanti, dai palazzi che sono anche un po' il simbolo del potere, della casta, della Chiesa e del Vaticano. Ancora Don Mazzi. E mi rompe, mi disturba, ecco, una Chiesa che dà lezione agli altri e che prima dovrebbe dare lezione a se stessa. Ma lei il pontificato qualche di Papa volta Francesco mi sento, non le io piace. Non dico una tonaca rossa, ma anch'io un privilegiato mi sento. Al Monsignore io chiedo chiarezza, chiedo onestà e chiedo di denunciare, di dire apertamente chi sono i furbi della politica, perché dire tutti sono ladri e tutti hanno un harem, non me ne sento partecipe di questo, essendo eletta a differenza del Monsignore direttamente dai cittadini, è un insulto secondo me nei confronti sia dei cittadini italiani che hanno votato rispettivamente quello che ritenevano il loro rappresentante, sia anche nei confronti dell'intelligenza del Monsignore. Oh, tema musei, nuovi direttori, 20 nuovi direttori. Vi facciamo risentire quello che ha detto ieri Vittorio Sgarbi, uno degli alfieri della nostra grande critico d'arte, ama fare la polemica. Franceschini ha detto sì, vabbè, ma a Sgarbi non piace il concorso perché a lui piace fare la polemica. Oggi sono commenti su tutti i giornali, molti favorevoli, ma anche quelli favorevoli dicono: beh, adesso che è stato fatto questo bando internazionale, abbiamo tanti bei direttori dei musei qualificati, bravi, belli, che vengono all'estero, non lasciamoli soli a risolvere i ben noti problemi che ha l'Italia e anche la valorizzazione dei musei, la burocrazia, la carenza di personale e tante altre cose. Risentiamo Sgarbi ieri sera. Il problema, che piaccia o non piaccia, è che i concorsi universitari sono pieni di delinquenti, di incapaci, di sgrammaticati, perché ci sono dei concorsi in cui uno mette il suo assistente, che è quello che gli ha leccato il culo tutta la vita. Quindi il concorso è un'istituzione profondamente negativa, ma soprattutto se si pensa che il presidente di questo concorso è un nominato. È il concorso che è una merda. No, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito, gara, che non le piace. 82, 83, 81. Sì. Ma che vuol dire? Eccoci qua, allora cari ascoltatori, 800 24 00 24. Adesso tra poco cominciamo a sentire anche i vostri interventi. Prima vi voglio dare quest'altra notizia, che è un sondaggio della Coldiretti, che ha a che fare anche col tema dell'Expo, non sprecare il cibo. Allora, secondo la Coldiretti, non decolla in Italia la pratica della cosiddetta doggy bag, cioè farsi mettere il cibo avanzato nei ristoranti in una borsina e portarselo a casa per mangiarlo dopo, eccetera eccetera. Il motivo è che la gente si vergogna di chiedere gli avanzi. In pratica è molto semplice, però un gesto così dovrebbe essere un gesto nobile, non sprecare il cibo, quindi non c'è niente da vergognarsi. Allora noi questa sera vi chiediamo invece di che cosa bisogna veramente vergognarsi oggi al ristorante, ma non solo, in vacanza in generale. Facciamola degli esempi, buttiamoli, per esempio buttare mozziconi in spiaggia, un grande classico, oppure superare in coda, quando non è lì in coda e qualcuno ti passa avanti. Oppure Andrea Scanzi Docet, andare a piedi nudi coi sandali quest'estate se non avete dei piedi belli. Anche questa potrebbe essere una cosa. Oppure notizia di oggi, stare a seno nudo in città, perché questo avveniva per esempio a New York, perché c'era un gruppo di ragazze che stava facendo questo spettacolo nella città di New York. Il sindaco De Blasio oggi ha vietato a queste ragazze di farlo, e quindi queste sono cose di cui ci si può vergognare. 800 24 00 24, secondo voi di che cosa bisogna realmente vergognarsi oggi? Abbiamo un illustre ospite, lo introduciamo così. Sono scesi dal cielo e si sono attaccati alle nostre porte, ai nostri pensieri, ai nostri parabrezzi. Sono arrivati di notte con le scarpe rotte, spiccati come funghi sotto gli alberi semafori. Ufo su Firenze, ufo su Firenze, come il marziano a Roma. Ufo su Firenze. UFO che sta girando su Firenze, è uno dei nuovi super direttori dei musei scelti con un bando internazionale dal ministro Franceschini, è tedesco ma ama l'Italia e soprattutto i suoi tesori. Ha un compito difficile, che è quello di far risalire gli Uffizi nelle graduatorie dei musei più visti al mondo. Heike Schmidt, buonasera. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Si sente un po' un UFO catapultato su Firenze, no? Lei a Firenze ci ha vissuto in realtà e si è formato in quella città. Sì, sì, soltanto la linea telefonica è come se io parlassi attraverso la linea di un UFO, altrimenti credo che conosco Firenze bene dai 7 sì. anni che ho vissuto a Firenze negli anni 90 e poi anche parecchi dei fiorentini, spero che mi ricordino ancora. Stare in Italia le ha insegnato l'ironia e il buon umore, perché è partito subito con una battuta. Noi la sentiamo bene, glielo dico, perché magari lei ha qualche ritorno fastidioso, ma noi la sentiamo benissimo. Adesso tornerà a Firenze con un ruolo di grande responsabilità. La spaventa? Ma spaventare, se c'è un po' di spavento è anche bene, perché questo spinge a essere più concentrati ancora. Cioè, se si prendesse troppo leggero, questo non sarebbe giusto per un incarico così importante. Certo, anche perché insomma la responsabilità è tanta, perché gli Uffizi sono già il museo italiano più visitato, 1.936.000 turisti in un anno. Adesso le chiederemo su che cosa punterà per farlo crescere ancora, dopo il traffico, però tra poco, con il nuovo direttore degli Uffizi, Schmidt. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Sono scesi dal cielo e si sono attaccati. Di nuovo in compagnia del nuovo direttore degli Uffizi, Heike Schmidt, tedesco, tanti anni in Italia. Quanti anni ha passato in Italia? Allora, 7 anni contigui negli anni 90, dal 94 fino al 2001, e poi sono sempre tornato ogni anno, anche più volte, soprattutto 2 anni fa, quando ho fatto la mostra su diafani e passioni, sugli lavori barocchi, sì, alle corti europee a Palazzo Pitti. Per quell'evento sono tornato tante volte, sì. Però anche di recente sono stato a Firenze proprio 2 mesi fa. Su cosa punterà per far crescere ancora di più il Museo degli Uffizi, che tra l'altro, allora, comprende anche Pitti e Boboli? Sì. Crescita soprattutto dell'esperienza del visitatore. Abbiamo sentito che ci sono tante code in autostrada in questo momento, però ci sono spesso anche tante code davanti agli Uffizi, e questo non è ideale di iniziare la visita a un museo con questi capolavori stando in coda per molto tempo. Naturalmente si sono già messi in atto dei sistemi anche informatici, però c'è tanta possibilità per migliorarlo ancora. Cioè, questi sono i sistemi che ora vanno studiati, però ci sono per esempio alcuni musei internazionali usano addirittura il ticketing attraverso il cellulare, quindi sì. Nuove tecnologie per migliorare anche semplicemente una cosa banale come entrare dentro il museo, acquistare il biglietto, entrare e non fare coda, perché è vero che agli Uffizi è stato documentato anche spesso ci sono tante code. È una di quelle cose che lei importerebbe, da perché lei ha lavorato molto in America anche, no? L'ultimo incarico. Sto lavorando anche oggi, che qui sono le 11 di mattina, e infatti ho una giornata di lavoro qui al Museo di Minneapolis. Dico, ora sono fatto una piccola pausa per la cassetta vista. Senta, lei avrà un ruolo naturalmente scientifico di carattere per quanto riguarda la curare tutto il patrimonio che c'è dentro gli Uffizi, ma anche manageriale, cioè proprio di gestione del museo da tutti i punti di vista, che questa è una novità importante per il panorama italiano. Magari non lo è in America o non lo è altrove, ma per l'Italia è una novità. Nel mondo museale fino a un certo punto è una novità, senz'altro. Però in altri settori dell'Italia è una cosa normalissima, cioè per esempio la guida della Fiat o della Ferrari non si danno semplicemente a un ingegnere, ma ci vuole proprio un manager. Stessa cosa con le telecomunicazioni, che ci sono dei manager e non soltanto dei tecnici dei cellulari che lo guidano. Ovviamente è bene di sapere del proprio settore. Certo. Questo è particolarmente importante, a mio avviso, nella storia dell'arte, nella museologia, e quindi penso che sia questa doppia qualifica dall'esperienza manageriale abbinato a quella di storico dell'arte che forse mi ha reso interessante. Intanto complimenti anche per come parla italiano, perché se la cava bene. 7 anni in Italia, però. Grazie. Intanto devo ringraziare molto mia moglie che mi dà lezioni. Allora lei è avvantaggiato, lei è raccomandato, perché ha la moglie che insegna italiano. Senta, era una battuta. Lei un esempio l'ha già fatto, che è quello delle code, diminuire le code per velocizzare. Ci vuole fare qualche altro esempio? Bar, caffetterie, librerie. Si dice sempre, il ministro Franceschini lo dice sempre molto, che in Italia tutto questo nei musei italiani è poco presente, troppo poco presente. Per quanto riguarda gli Uffizi, fare business come di più? Allora, ora sono stato appena nominato, non ho nemmeno preso servizio, quindi queste sono tutte le considerazioni, cioè, ho molte idee concrete, però bisogna ancora vedere quale sarà la prima proietà. Non ce ne svela neanche una piccolina? Sì. No, ma anche un'altra, a parte il fatto di migliorare l'esperienza del disegnatore, un'altra cosa, non sarò soltanto responsabile degli Uffizi, ma anche di Palazzo Pitti, e infatti... che è molto meno visitato, però ha altrettanti capolavori, quindi di rivalorizzare Palazzo Pitti, cioè anche questo è un punto molto importante che mi sta molto a cuore. Una delle prime dichiarazioni che ha rilasciato ieri ha detto sì all'affitto delle sale per gli eventi dei privati. Potrebbe essere anche questo un modo per far cassa? Allora, questa cosa è una cosa credo che sia il riassunto che è stato su un giornale di un discorso naturalmente molto più complesso. Sempre perché, colpa dei giornalisti, stia tranquillo, non si preoccupi. Di cui ho soprattutto parlato è il fatto che tutti i mondi si fanno queste collaborazioni con il settore privato, soprattutto in America, e ho spiegato un pochino quello che si fa in America. Infatti è una cosa normalissima di affittare oppure di dare la possibilità di usare certe sale dei musei qui a Minneapolis per fare degli eventi privati. Quindi è una cosa che lei importerebbe dall'America anche in Italia? Allora, però non nel senso che io prendo una cosa esattamente come viene fatto così e lo esporterei in Italia. Questo sarebbe sbagliato di pensare che questo fosse possibile, però invece di prendere l'idea, il principio, e poi proprio adattarlo precisamente alla realtà italiana, che è diversa. Cioè, gli Uffizi sono un museo unico nel mondo, il museo anche uno dei più antichi musei in esistenza in tutto il mondo, quindi questo va tutto considerato, e so che per esempio per questi eventi esiste già un regolamento agli Uffizi, quindi non sarebbe una cosa completamente nuova. Io quando arrivo devo studiarlo, e sarà tra le prime cose studiarlo per bene, parlare con i colleghi. E senz'altro questo è una cosa importante che si può fare, che sicuramente, glielo dico, solleverà qualche critica, perché da noi ci si preoccupa molto della tutela del patrimonio, poco della valorizzazione. Lei forse lo saprà, in Italia questa è una cosa su cui un dibattito in cui entrerà mille volte, quindi quando cercherà di affittare una sala degli Uffizi per qualche evento, per incassare e per magari con quei soldi poter tutelare ancora meglio il patrimonio degli Uffizi, ci sarà qualcuno che dirà che sta svendendo gli Uffizi a qualche privato. Si prepari? No, allora la cosa importante è proprio il intreccio tra valorizzazione e tutela. Cioè sì. Questo, se si distacca un aspetto dall'altro, questo sarebbe sbagliato, ma una buona valorizzazione contiene anche la tutela e viceversa. Perfetto. Senta, la spaventano le critiche di chi sta scrivendo nei giornali in questi giorni, o di chi pensa male del fatto che ci sia uno straniero alla guida di un museo italiano? Ma soprattutto di cuore mi sento già un po' fiorentino, devo dire, perché la città in cui ho vissuto più a lungo nella mia vita da adulto, almeno, che torno sempre a Firenze. Non sono fiorentino di nascita, naturalmente, né sono cresciuto a Firenze, però comunque è una città di cui mi sono innamorato, e quindi per questo se qualcuno dicesse, io devo dire che tra l'altro non ho nemmeno avuto il tempo di leggere quello che qualcuno magari avrà scritto o non scritto, ma comunque devo dire, cioè, il fatto che vengo da altrove nella storia di Firenze è una cosa molto frequente. Sono sempre stato molto utile a Firenze, alla storia di Firenze, i contatti internazionali già nel Medioevo, già nel periodo del Rinascimento. Per esempio nel Rinascimento molti dei cuochi nelle città italiane, Firenze incluse, erano di origine tedesco, che questa è una cosa che non si immagina oggigiorno, che ci sono molti pizzaioli in Germania, ma in verità nel 400 c'era un po' la situazione all'inverso, cioè, c'erano sempre dei studiosi che sono venuti in Italia, e poi gli artisti soprattutto, che hanno intrapreso dei viaggi da oltre Alpe per venire in Italia e specialmente anche a Firenze. Certo, l'arte è internazionale. Senta, le voglio far sentire che cosa ha detto ieri da noi Sgarbi, Vittorio Sgarbi, critico d'arte, lo conoscerà se ha vissuto in Italia naturalmente, su di lei e il passaggio di consegne con il suo predecessore. A dire la verità, Sgarbi non ha detto che non ha alzato muri sul fatto che lei è straniero, assolutamente persona qualificata, diceva però che il suo predecessore in realtà è stato un buon sovrintendente. Che cosa ne pensa? È vero? Ma io stimo Antonio Natale moltissimo, lui ha fatto un ottimo lavoro, lo conosco tra l'altro da 20 anni e quindi quello che farò agli Uffizi sarà di aggiungere quello già fatto da lui e tutto il suo team, non sarà da togliere. Del resto poi non si sarebbe poco elegante che lei adesso parlasse male di chi lo ha preso. No, ma però le faccio sentire, le faccio sentire un attimo invece che cosa ha detto Sgarbi. Sentiamo Sgarbi. Collega. Sentiamo un attimo Sgarbi. Gli Uffizi aveva un ottimo, straordinario direttore che è Natale, ha nominato un giovane storico dell'arte tedesco, solo perché è tedesco, che non ha alcun merito di più di Natale. Però ha avuto delle esperienze, ha lavorato al Getty Museum, a Sotheby's. Sì, appunto, Sotheby's vuol dire il mercato. Questo è il commento. Sotheby's vuol dire il mercato. Quindi, diciamo, lei sarebbe un giovane critico storico dell'arte. Ma mica tanto così giovane, ormai ho 47 anni, quindi ho già qualche esperienza alle spalle, direi. Non così giovane. Va bene, grazie, in bocca al lupo per il suo incarico. Grazie. Neo direttore degli Uffizi Heike Schmidt, lo avete appena sentito. 800 24 00 24. Ci fermiamo per la borsa, torniamo tra pochissimo. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito, forse anche da sola. Sono Annerita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17:30 su Radio 24. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Allora, raffica di messaggi tutto sommato positivi, anzi quasi tutti positivi sull'intervista ad Heike Schmidt, il neo direttore degli Uffizi in Italia. Vediamo, nomine interessanti, mossa azzeccata, straniere non, importante che portino a casa dei risultati. Anna, al curatore degli Uffizi, King agirebbe come testimone al famoso? Questa è una domanda che potevamo fargli. Ottima scelta, straniere era ora, cioè, andrebbe messo in atto anche con la classe politica, dice anche un altro ascoltatore. Dopo questa intervista, dice Francesco da Torino, propongo più tedeschi nei ruoli chiave in questo paese. E va bene, andiamo allora con Emanuele che chiama da Roma. Buonasera Emanuele. Sì, eccomi, buonasera, salute. Prego. Mi sentite? Sì, forte. Salve. E chiaro. Dunque, io vorrei intervenire su un argomento di ieri, devo fare un po' il mestatore purtroppo. Mi volevo riferire alla doppia volta in cui Gabbardini ha negato l'esistenza del gender, della teoria del gender, che è una cosa che a me mi ha fatto un po' cascare dal pero, perché dico, se non esiste questa teoria, cioè se è una cosa da complottisti, tipo, che ne so, le piramidi costruite dagli alieni o le scie chimiche, in forza di quale, cioè da dove è uscita, da quale cappello a cilindro sono uscite cose tipo la Svezia che introduce il pronome neutro, oppure l'ultima sentenza che c'è stata, e sicuramente voi conoscerete, quella per la quale una persona può definirsi maschio o femmina a prescindere dal fatto che sia concavo o convesso in mezzo alle gambe, una sentenza abbastanza recente di un paio di mesi fa, la ricorderete, no? Ma forse, forse sono, adesso a parte questa sentenza, il discorso della Svezia, così come genitore 1, genitore 2, che era venuto fuori a Bologna, più che dalla teoria del gender, forse sono semplicemente modi per venire incontro a quelle situazioni che ci sono, piaccia o non piaccia, ci sono, di situazioni di famiglie ibride che non sono padre uomo e madre donna, ma sono altre. Sì, ma se il e che vanno codificate, forse è semplicemente questo. Gabbardini ieri negava l'esistenza di una teoria, scientifica strutturata che porta questa, non so neanche che cosa, perché dopo averlo sentito ieri sera quattro volte, la teoria del genere non ho capito nemmeno io, sinceramente. Io le rispondo così: credo che sia per venire incontro a questi casi ibridi diversi, nuovi, che ci sono e che anche le leggi stanno decodificando, ed è giusto che sia così. Esiste una esigua minoranza di persone che nascono con delle malformazioni genitali, per cui non si possono definire maschi e femmina. Forse per venire incontro a loro si può pensare di introdurre un pronome neutro, però che poi questo pronome neutro venga utilizzato nell'educazione, sì, negli asili, e in Svezia basta che cerchiate. Ma cosa vuol dire che venga utilizzato? Perché ci spaventiamo per poco. Viene utilizzato nel momento in cui c'è uno di questi bambini o ci sono una di queste famiglie, e allora gli insegnanti, e io lì credo che bisogna delegare agli insegnanti, che sono persone intelligenti, eterosessuali, omosessuali, di destra, di sinistra, alti e bassi, ma fanno il loro mestiere e sanno se è il caso o no di introdurre l'argomento. Non si fida degli insegnanti? Così, perché vi ripeto, basta che prendiate YouTube e, sì, guardate, ci sono i filmati girati dentro agli asili in Svezia, per cui sono filmati, a meno, sì, che non pensiamo. E cosa che succede in questi asili in Svezia? In cui si applica il pronome neutro con i bambini, cioè li si convince che possono essere autonomamente, possono decidere se essere maschio o femmina. Guardi, in tedesco, visto che abbiamo appena intervistato Schmidt, la femmina si usa l'appellativo neutro, vede, le lingue a volte sono, sì, così. Sì, lo so, ma però in Svezia non era così, tant'è che sono dovuti intervenire per legge. Ma anche la questione del tribunale, sì, adesso, di questa sentenza, sì, voi ve lo ricordate lo sketch dei Monty Python con Loretta? Quello in cui personalmente lui dice, no, voglio, lo dovesse guardare, se lo cercate, Loretta Monty Python esce subito, sì, in cui questo dice: ma io voglio avere figli. Ma tu non puoi avere figli, sei maschio, cioè poi voglio che mi chiamiate Loretta. Se un giudice stabilisce che una persona si alza la mattina e può autonomamente definirsi maschio o femmina a prescindere dal proprio sesso biologico, questa cosa ha alle spalle un modello interpretativo del mondo o no? Non lo so. Io penso di sì, perché a meno che non sia una persona che tira fuori dal cappello a cilindro che 2 più 2 fa 3 o 5 e lo stabilisce ope legis, ci deve essere un modello interpretativo. Se c'è un modello interpretativo, c'è una teoria. Quindi c'è una teoria, c'è un complotto mondiale per imporre a tutti questa teoria gender, è questo che lei dice? Un complotto presume qualcosa di fatto all'ombra, di fatto in segrete stanze, e voi basta che vi andate a prendere un po' di riviste della comunità gay degli anni 80, sì, negli Stati Uniti, per esempio, e sono pure queste su internet, le potete cercare, sono scannerizzate, anche su Google Libri ci stanno, sì, e vedete che molte di queste cose sono apertamente codificate, quindi non c'è nessun complotto nel senso dei Bilderberg, degli Illuminati. No, infatti è lei che dice che c'è una teoria che si sta imponendo in qualche modo. C'è gente che la pensa diversamente da lei, questo sì. Ho capito, però la gente può anche pensare che 2 più 2 fa 3. Però se c'è un meccanismo interpretativo, sì, del mondo, questo meccanismo interpretativo, questo modello, pardon, interpretativo del mondo, è o non è una teoria? Ma cioè, guardi, dire, un modello interpretativo, è inutile che andiamo avanti teoria così, perché io non difendo la teoria gender, non so neanche bene di che cosa stiamo parlando. Quando torna Carlo in studio ci richiami e le faccio rispondere da lui, che invece è un esperto. Grazie, buona serata Emanuele. Andiamo con Roberto da Pistoia. Sì, buonasera. Roberto, buonasera. Buonasera e grazie per avermi richiamato. Sì. No, si stava parlando praticamente del problema di come vergognarsi, no? Sì. A parte che l'educazione oggi va un po' a farsi friggere, perché oggi molte persone sono maleducate. A me quello che dà molto noia, sì, è quando vedo praticamente le persone che buttano e gettano dalla macchina fazzoletti, carta, e addirittura svuotano il posacenere. Questo è un modo anche, cioè, di proprio, svuotare le tasche, sì, sì, dell'auto fuori per stare così. Esatto, ma, mentre, esatto, ma mentre l'auto viaggia, le è capitato mentre di mentre l'auto viaggia. No, mi sono visto proprio mentre l'auto viaggia tranquillamente persone, sì, che buttano la carta fuori del finestrino. No, vabbè. A volte ci si sente in macchina così, come se si fosse dentro una repubblica indipendente, no? Uno getta una cosa e non vede nessuno, invece c'è qualcuno che magari se lo becca anche in faccia. Esatto. Va bene, Roberto, quindi vergognarsi di buttare la roba fuori dall'auto. Grazie, buona serata. Raffaele da Ferrara. Pronto? Buonasera. Sì. Io chiamo da Ferrara. Io sono orgoglioso di essere ferrarese, ma mi vergogno di vivere a Ferrara in questo momento storico. Perché? Che succede? Le spiego il perché. È una città che ha perso tutto il suo fascino. La città di Franceschini, tra l'altro. La città, città di Franceschini e Sgarbi. Ecco, questo proprio è una città all'abbandono, sporca. Che veramente. Lei pensi che abbiamo il centro storico più grande, uno dei più grandi d'Europa, non d'Italia, d'Europa. Abbiamo un castello fantastico, magnifico, invidiato. Noi abbiamo l'acqua attorno al castello ed è una cosa unica. Abbiamo tante unicità, però abbiamo una città, io ripeto, ma cosa c'è che ci descriva un angolo degradato di Ferrara? Allora ce ne sono parecchi, perché gli angoli degradati di Ferrara sono tanti. Le lascio immaginare che cosa succede. E questo no ma lo dica, non mi lasci immaginare, perché fanno la pipì e anche qualcos'altro e rimane lì, e quindi lei può ben immaginare. Io più che fare la pipì su un muro o su non bisogna farlo, angoli. Però non è una, cioè, nel senso, voglio dire, è una cosa che la stanno ascoltando anche quelli che abitano a Roma o in altre città dove i problemi sono più grossi, rifiuti in mezzo alla strada, buche in mezzo alla strada. Ma io vivo a Ferrara, lei può immaginare, io sono, le ripeto, orgoglioso di essere ferrarese, e vederla ridotta così, io mi piange il cuore, in questo momento mi vergogno. Sì. E quindi anche io faccio anche lei si vergogna di come è gestita, di com'è Ferrara in questo momento. Ferrara. Sentiamo se il suo grido di dolore viene raccolto anche da qualcun altro. Grazie, buona serata Raffaele. Andiamo con Filippo da Milano. Filippo. Buonasera Maurizio. Prego, Filippo. Yes. Mi senta? Sì, mi sento. Sono britannico di Londra, sono professore di inglese a Milano da più di 20 anni. Okay. Lavoro con l'università, con multinazionale. Comunque, questa cosa di organizzare i nomini attraverso bandi, attraverso queste competizioni, sì, aperti, sono una bella cosa, perché c'è Metropolitan Museum of Art New York, c'è Londra, London National Gallery, c'è quello di Louvre. Tutti quelli sono avanzati. In modernizzare il sistema qua bisogna avere questi tipi di passi. E cosa che Sgarbi ha detto, non sono assolutamente d'accordo, perché lui non capisce in altri paesi come funziona. In altri paesi funziona che si aprono le strade per migliorare, avanzare, creare più nuovi sistemi, creare nuove idee, freschi, persone fresche. Quindi non i soliti raccomandati, non i soliti nomini dei vecchi sistemi, no? Secondo lei? No, io sono perfettamente d'accordo, l'ho detto più volte. Abbiamo molti italiani che stanno alla guida di istituzioni culturali importanti in giro per il mondo, quindi figuriamoci se non possiamo avere gente che viene dall'estero, purché sia titolata. Sì, non credo che questa cosa basti di per sé a risolvere come una bacchetta magica i tanti problemi che hanno alcune realtà museali italiane, dove ci sono problemi di collegamento con i mezzi pubblici, problemi di burocrazia che in Italia vanno oltre la nomina di un direttore generale. Non vorrei che questo bando fosse un modo, diciamo, per dare una mano di vernice fresca su un palazzo che però va ristrutturato dalle fondamenta. Per il resto sono d'accordissimo col bando. Ho notato questa cosa, oltre 20 anni in Italia, ho girato molto in diverse parti d'Italia, perché volevo sapere il sistema, la cultura meglio, perché mi piace tanto di questo. Ma in realtà per modernizzare un paese bisogna anche fare cose che sono abbastanza difficili, abbastanza controversie anche. Scusi, l'italiano non è migliore. Ma lei dove lavora, Filippo? Ha detto in una multinazionale? Sono a Milano, sono britannico di Londra, sono a Milano da 20 anni, più di 20 anni. Sì, e lavora in una multinazionale, in che ambito? No, lavoro come professore di inglese. Ah, scusi, avevo capito. Dirigenti, manager, top manager, fai e corsi, anche università. Fai corsi di inglese per i manager italiani? Business English, corsi di inglese commerciale, corsi di inglese accademici per Bocconi, Cattolica. Com'è il livello meglio dei manager italiani con l'inglese? Buono? Non rida, perché è basso, va malissimo? No, anche i presentatori di televisione e radio non pronunciano i nomi internazionali bene. Ma è sempre colpa, nostra, scusi. No, io insegno per oltre 20 anni, sono molto molto conosciuto nel circuito, e direi che aiutare il manager lo fanno per meeting internazionali, per negoziazioni importanti, di teleconferenze, videoconferenze, eccetera, eccetera. Ma la cosa per gli studenti di Politecnici, di Bocconi, Cattolica, loro vogliono, come studenti di economia, studenti di... Se studia l'inglese pure già al Politecnico, per esempio a Torino, ci sono ormai corsi universitari completamente in inglese, eh? Certo, anche in Milano c'è corsi di inglese in curriculum del loro laurea. Comunque io volevo solo dire che i bandi sono una cosa bella. Va bene, perfetto. Grazie Fili, buona serata, grazie. Andiamo con Antonio da Caserta. Buonasera. Senta, volevo, a proposito dei musei, che è stato nominato questo nuovo direttore degli uffici per incrementare, diciamo, gli incassi, eccetera. Io adesso sono 8 anni che sono diventato cieco. Comunque, quando visitavo i musei, davanti a un quadro, per esempio di Icono Giarnolfine, mettiamo, mi veniva in mente la poesia Il primo amore dei Leopardi. Oppure se vedevo per esempio una pineta, mi veniva in mente La pioggia nel pineto di D'Annunzio. Quindi lei suggerisce associare a un quadro, diciamo, una poesia. Esatto, o quando una guida praticamente che accompagna un non so se un professore, un insegnante, chiunque esso sia, che accompagna questa comitiva, potrebbe avere la stessa ispirazione. Però nel museo ci saranno 4 o 5 persone, quindi si dà del lavoro a provvigioni, quindi senza stipendio. Sì. Questa potrebbe, guardi, Antonio, questo potrebbe essere una bella idea, perché in effetti il fatto di come si utilizzano le guide dentro i musei ci sarebbe molto da fare per rendere l'esperienza più accattivante. Tante volte stai lì, guardi, non capisci quello che stai guardando, c'è una guida che ti sta spiegando in termini anche molto tecnici quello che stai vedendo e continui a non capire. Quindi ben venga il suo suggerimento. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Goppo vavoletto senza fobiet. Gianni a maischio per passare a squet. Ci siamo portato l'ovio casa di il. Mamma ci ha fatto sta cicci che prende. Oh oh, cattamar. Oh oh, cattamar. Oh oh, cattamar. Oh oh, cattamar. Oh oh, oh oh, è cattamar. Fondamento molo beverel, ma ti mi c'era banne caparim più bel. Si perdimmo l'aura, ci vediamo care mar. Se va anche assai, ma stanno là di Tamarro. Tamarro è la parola della discordia, perché è la parola che è stata stampata sulle magliette del Festival delle Migrazioni, riferita a Matteo Salvini. In collegamento con noi Giovanni Manoccio, vice sindaco di Acquaformosa, organizzatore del Festival delle Migrazioni. Buonasera. Buonasera a lei e a tutta l'umanità. Un inizio solenne proprio così. E certo, chi fa accoglienza deve salvaguardare tutto il mondo. Laddove molti vedono un problema, l'immigrazione, voi vedete che cosa? Una risorsa, una cosa positiva, una soluzione a dei problemi? Una risorsa. Nel mio paese di 1100 abitanti, io ho fatto il sindaco fino all'anno scorso, adesso sono vice sindaco, c'è una miscelanza ormai di religioni, di etnie, di persone che vengono da tutto il mondo. Dunque, voi quanti abitanti siete adesso ad Acquaformosa? 1100. E quante nazionalità avete? Nei 5 anni di accoglienza saranno passati un 700-800 ospiti, abbiamo avuto 30-40 nazionalità, tutte e 5 i continenti. Ma si fermano poi i migrati, rimangono? I progetti sono per un anno, qualche famiglia è rimasta, alcune in questi giorni stanno trovando lavoro, per cui... Qualche famiglia è rimasta, quindi su 1000 abitanti ad Acquaformosa quanti immigrati ci sono? Lei che è vice sindaco ce l'ha un numero, un'idea precisa più o meno? In questo momento sono 60. 60. Senta, ma spieghiamo la maglietta. Avete fatto una maglietta, perché lei quando è stato vice sindaco... sindaco, adesso è vice sindaco, aveva già fatto un cartello con città deleghistizzata. Paese deleghistizzato, esiste ancora questo cartello? Sì, esiste ancora, esiste un bel decalogo che è sempre attuale. E qual è il decalogo? Il decalogo dei comportamenti da tenere nel paese deleghistizzato. Praticamente noi abbiamo costruito una cosa molto simpatica. Ad ogni frase di un leghista di quegli anni, è datato, è del 2009, abbiamo messo una nostra frase di come ci si deve comportare nel nostro paese. Le tipo? Faccio un esempio. Bravo. Così si capisce? Sì. Allora, nel nostro paese non togliamo le panchine per gli immigrati. Si ricorda Gentilini a Treviso? Sì, che toglievano le panchine. Le panchine agli immigrati. Noi ci abbiamo scritto puntini puntini, anzi le dotiamo di cuscini. Le dico un altro? Un altro. Nel nostro paese non sono ammesse le ronde, è consentito il libero passeggio e lo struscio. Andiamo da Salvini, per esempio. Lui inneggiava la monnezza di Napoli, se si ricorda, sì, nel 2009. Nel nostro paese non si possono cantare le canzoni che inneggiano la monnezza di Napoli, si può cantare O Sole Mio. Ah, vabbè, sono tutto altri. Così, tutto così. Senta, ma in quest'anno avete fatto le magliette con scritto che Salvini è Nuterrone. È un tamarro. Nutamarro, scusi, mi sono sbagliato. Certo, siamo anche partiti. È molto bello questa cosa. Ma le cosa vuol dire cosa tamarro? Tecnicamente cos'è un tamarro? Ecco, esatto. Le dico la definizione com'è nata. Io ho dei problemi di salute, sono intollerante agli zuccheri. E c'è una famiglia siriana qui ospita nel nostro progetto, pregevolissime, sì, persone di alta cultura, il signore cuoco, che è molto raro in quelle culture che l'uomo faccia il cuoco e serva le donne, e mi porta un dattero o tre datteri e mi dice che bisogna mangiarle perché migliorano la mia vita. Il mio diabetologo invece dice che i datteri non vanno mangiati. Per cui ho tentato di fare una ricerca, dico, devo credere al diabetologo o devo credere al cuoco siriano, al mio amico Ahmed. Mi sono andato a vedere su Wikipedia, tamarro, cos'è? Il raccoglitore di datteri. Però in calabrese tamarro è un uomo rozzo, è, sì, un uomo scontroso. Ma scusi, ma il dattero alla fine se l'è mangiato o no? I datteri continuo a mangiarli, uno al giorno però, contravenendo a quello per non che andare sono contro né il medico né il suo amico cuoco siriano. E contravenendo no a quello che dice il mio diabetologo, che dice che non bisogna fare. Senta, ma e perché io ho visto in queste due definizioni proprio l'uomo Salvini, sì, capisce, scontroso da una parte, però potrebbe essere in positivo, perché potrebbe avvicinarle alle politiche dell'immigrazione, capisce? Ma cosa le ha fatto a lei Salvini di male? Cosa le ha fatto Salvini di male a lei? No, a me non ha fatto niente. O agli organizzatori del festival. Abbiamo delle culture opposte, capisce? Sì. Abbiamo delle culture opposte, però io l'ho invitato nel mio paese a venire in questo festival, ma si figuri, accogliamo da tutto il mondo. Anche quest'anno l'ho invitato, perché l'altra sera l'abbiamo sentito, gli abbiamo girato la questione, lui a un certo punto sembrava quasi che volesse fare qualche querela, poi ha detto di no, non credo che per una definizione di tamarro uno possa fare querela, però ma no, ma poi lui è l'uomo delle t-shirt, è l'uomo delle questo magliette, perché arrabbiarsi per queste cose? Quindi l'avete invitato, però Salvini non gli passa neanche per il capo di venire. Ma credo di no, lui è forse non è abituato ai climi del meridione, del sud, capisce? Poi se viene nel mio paese troverà tanti colori di senta, pelle. Senta, ma è vero che ci sono, perché Salvini ha detto questo, un festival fatto con finanziamenti pubblici, un festival che mi attacca, fatto però con finanziamenti no, pubblici del governo. Capisce? Lui non ci sono finanziamenti del governo al festival delle no, ecco, esattamente. Lui ha preso il manifesto della manifestazione, c'è l'UNAR, che sì, l'Istituto Antidiscriminazione Nazionale, della, sì, presidenza del Consiglio, e poi c'è lo SPRAR, che sono i nostri progetti, che hanno patrocinato semplicemente il festival, cioè, perché no, il festival non è la maglietta di Salvini un tamarro, il festival è fatto da tre giornate di intenso lavoro convegnistico sui, sì, problemi dell'immigrazione. Però perché a un certo punto c'è il gran concerto il 23 agosto di 99 Posse dal titolo Salvini è Nutamarro. Esatto, ma diciamo che quello è un momento ludico, come si conviene in estate, insomma, qualche provocazione bisogna pur farla. Comunque, capito? Secondo lei è normale che ci sia il patrocinio di un ente governativo a un festival dove si attacca un politico? Vai, questo... Per me è importante che ci sia una sponsorizzazione da parte, senza soldi naturalmente, perché, sì, nessuno dei due enti ha dato. C'è solo il patrocinio senza soldi, senza, sì, soldi. Sì, solo il patrocinio su un convegno che dal tema Africa tra vecchie e nuove povertà, che è il primo giorno, che vede professori universitari, ospiti dello SPRAR, padre Fedele Bisceglia, lei lo conosce padre Fedele Bisceglia, il missionario calabrese che era stato, sì, accusato, per sentito dire, non è che siamo amici, era stato accusato fino a poco tempo fa di aver violentato una, sì, cuore, dopo 10 anni è stato assolto totalmente ed era un missionario in Africa. racconteremo queste storie, racconteremo cosa succederà nei prossimi decenni come proiezione. Però senta, sono persone di cultura. Come racconterebbe invece a chi magari non viene al Festival delle Migrazioni, ma che vive ai quartieri delle città, di molte città del nord, dove, ma non solo, anche a Roma per esempio ci sono problemi legati alla presenza degli immigrati o ai centri di accoglienza, ci sono state tensioni, questioni legate alla sicurezza, dove tanto scoppiano tensioni varie eccetera. Come spiegherebbe che per lei la risorsa dell'immigrazione è così importante in quei posti lì dove invece ci sono problemi? Ma io potrei semplicemente dirle, lei ha intervistato un immigrato poco fa che è diventato direttore degli uffici, comunque questa è una battuta. Sì. Noi abbiamo un metodo sociale di porci rispetto a questi problemi. Sì. Partecipiamo a dei bandi del Ministero degli Interni, partecipiamo, quindi scegliamo noi di essere paese che accoglie e portiamo qui le persone. E sono progetti di mutuo soccorso tra le popolazioni e gli immigrati, perché ci consentono, attraverso i finanziamenti del Ministero degli Interni, di fare in modo che nella derelitta Calabria ci siano ragazzi, gente che ha studiato, che possa rimanere nei propri paesi e non andarsene via. Lei ha letto, ha sentito parlare in questi giorni del rapporto Svimez. Questa però è una cosa, sì, della crisi del sud, eccetera, eccetera. Questa però è una cosa che può valere per i piccoli paesi, esatto, come voi, che si stanno spopolando e quindi in questo caso qualche immigrato... Se c'è un sistema di questo genere, sì, che viene governato... a cui gli enti locali partecipano e non gli viene, come succede adesso, come è successo nell'emergenza Nord Africa e come succede adesso con le prefetture, gli viene imposto la presenza dei migranti nelle loro comunità, diventa un fatto che può essere sostenuto e che crea le condizioni anche economiche di rivalsa dei piccoli paesi. E questi sono i nostri progetti. È un modello sociale, non sono mafia capitale, non sono le speculazioni di persone, delle holding finanziarie che sono entrate nel business dell'immigrazione e hanno speculato da questo punto di vista, capisce? Cioè no, da noi gli immigrati hanno riempito le case nei centri storici perché sono diventati nostri cittadini attraverso questi Ma queste case abitate dagli immigrati, che mi aveva incuriosito, come vengono assegnate? Cioè pagando degli affitti privati, cedono? Ci sono alcune case che sono messe a disposizione del comune. Lei capisce che ci sono paesi in via di spopolamento, certo, per cui paesi che si svuotano completamente. Però mi incuriosiva il meccanismo che avevi, cioè come fate? Nel senso, sono case pubbliche, case private? Sono case private, attraverso questi progetti a cui noi partecipiamo paghiamo regolarmente l'affitto. Dalla lira al milione sono tutte quante tracciabili le nostre spese. Questo è il sistema dell'accoglienza che va bene. Ma scusi, ma chi lo paga l'affitto di queste case che vengono occupate da questi immigrati? L'ho detto prima, le paga il comune? Noi partecipiamo a un bando nazionale del Ministero degli Interni, sì, che per 3 anni noi abbiamo dei finanziamenti per mantenere li utilizzate per fare quella cosa lì. Queste persone che sono richiedenti asilo e rifugiati. Per e cui che adesso sono quelle 60 che mi diceva prima. Sì, esatto. Che devono andare in commissione per vedere se hanno il diritto in base, se sono in umanitario. Ma questo se secondo lei è un modello che funziona solo per voi lì ad Acqua Formosa oppure essere esteso anche altrove? Il modello SPRAR è un modello storicizzato. Noi siamo passati... Acqua Formosa è uno dei paesi insieme a Riace in Calabria che è proprio come simbolo, perché sono anni che facciamo questo tipo di accoglienza col Ministero degli Interni. Ma c'erano fino a 3 anni fa 4.000 posti in tutta Italia, poi sono passati a 20.000, adesso si arriva a 40.000. Per lo più sono soldi anche della comunità europea che vengono ben spesi, perché c'è la programmazione in fondo, capisce? E c'è il consenso delle amministrazioni locali che sono i titolari dei progetti e dopodiché affidano a delle cooperative in loco o delle associazioni in loco la gestione. Per cui diciamo che c'è tutta un'economia. Lei sa quanto costa un immigrato nei nostri progetti? 27 euro. Sa quanto prende un immigrato al giorno, quando i soldi noi diamo a loro? 2 euro. E i 25 euro rimangono alla comunità,

Non mi sembra una spesa intelligente del denaro pubblico. 800 24 00 24, chi vi ha convinto di più, Manoccio o Salvini? Non c'è, bisogna dirlo, gliel'abbiamo chiesto, denaro pubblico nell'organizzazione di questo Festival delle Migrazioni ad Acqua Formosa, 21-25 agosto, per chi fosse interessato. C'è semplicemente il patrocinio dell'UNAR, che è l'Unione Nazionale Anti... un ente del governo, quindi però c'è solo il patrocinio, non ci sono soldi pubblici come credeva che fosse Salvini. Manoccio ci ha parlato in realtà di un modello di ospitalità per i richiedenti diritto d'asilo diverso da quelli dei centri di accoglienza, ha detto siamo una cosa diversa rispetto a Mafia Capitale. Non so se avete capito bene, gli immigrati praticamente vengono ospitati in case private del comune, abbandonate dai proprietari di questo piccolo paese della provincia calabrese. I soldi che normalmente vengono dati per gestire gli immigrati in questo caso vengono girati ai proprietari delle case, un modello, ha detto Manoccio, che potrebbe funzionare anche altrove. Don Mazzi sulla adottabilità o meno del bambino di Martina Levato, sentiamo. Io sono convinto che Martina sia vittima di un gioco settario e che non sia quella perversa persona di cui si va discutendo in questi giorni. Siciliana, è una bravissima cantante, è under 30 ma non viene da un talent, è con noi Levante. Ciao. Ciao, buonasera. Allora, questa che stiamo sentendo è tratta dall'ultimo album, Abbi cura di te. Esatto, Le lacrime non macchiano è il mio secondo singolo, è tratto da Abbi cura di te e appunto sono contenta, mi fa strano sempre sentirmi in radio, è sempre una cosa molto particolare. Senti, ma come sta andando il tour? Tu stai facendo un tour? Sta andando benone. È iniziato il 6 giugno e finirà il 19 settembre a Napoli. E devo dire, sono state tantissime date, tantissimi festival. E sono ritornata sui palchi, non vedevo l'ora. Perché tu hai fatto la gavetta, io ho detto nell'introduzione non hai fatto i talent, adesso ne parliamo magari anche di questo se vuoi, però ti voglio chiedere, tu sei una di quelle che di quei cantanti che durante il concerto tra una canzone e l'altra parla, dice cose, lancia messaggi oppure fai la tua scaletta tranquilla e tutto via, fila via liscio? Guarda, ho iniziato con il primo tour, il manuale di istruzione, ero più chiacchierona, devo ammetterlo. Ah, poi hai fatto un passo indietro. Poi piano piano, non è che ho fatto un passo indietro, diciamo che lascio che tutto sia molto naturale, per cui in base anche al clima che si crea sono più chiacchierona o meno, spiego delle cose, introduco dei brani. Ma c'è sempre secondo te questa curiosità da parte di chi viene ai concerti di sentire che cosa ne penserà il cantante? Tu sei giovane, sei giovanissima, non hai ancora 30 anni, però insomma la gente viene anche per conoscere il personaggio, oppure secondo te c'è più l'interesse così ad ascoltare la musica come se bisogna trovare un equilibrio tra le due cose. Sicuramente i logorroici sul palco non piacciono molto. Tu cerchi di barcamenarti un po', insomma. Io sì, però lascio che tutto sia molto naturale, non mi sforzo di dire qualcosa se non ne ho voglia. Non mi a seconda, esatto, quindi è una sorpresa, esatto, che venire al tuo concerto, magari si trovano delle esternazioni di Levante oppure anche no. Sì, certo. Tu scrivi tutto, musica e testi, cantautrice, quindi è tutta farina del tuo sacco? Tutta mia. Cosa è più importante, testi, musica o testo? Sì, sicuramente il testo, per quanto mi riguarda, io mi sono sempre sentita un'autrice che canta. Chiaramente la musica è quella che arriva allo stomaco per prima, no? Però no, il testo è fondamentale. Il testo è fondamentale. Quindi scrivi prima il testo o... No, ecco, appunto, dallo stomaco lascio che la musica mi guidi verso le parole. Sì. Senti, come ascolti tu la musica invece? L'ascolti tramite smartphone, con le cuffie? Io ascolto la musica, adesso ormai tramite smartphone, poi tramite Shazam riesco a scoprire i nuovi brani che non conosco, quindi li compro su iTunes. È tutta una, ormai è diventata tutta una questione digitale. Anche se io quando acquisto il vinile. Ah, vedi. Quindi sono abbastanza. Beh, no, c'è tutta una corrente di amanti del genere che continua a comprare il vinile, anzi, perché ha tutto un suo sapore. Ma ti dà fastidio invece come cantante il fatto che appunto la gente ti ascolti mentre sta facendo altre cose, no? Con le cuffiette, magari la qualità non è altissima. La qualità sicuramente non è la stessa del vinile o del CD, però. No, anzi mi fa piacere che la musica serve anche a quello, cioè puoi crearti dei momenti di riflessione con la musica oppure addirittura di totale superficialità in cui resta semplicemente un tappeto rispetto alle cose che stai facendo. Senti, musica e talent, perché questo è un argomento che sempre divide. Per qualcuno sono un'opportunità per i giovani di andare in televisione, altrimenti ci sarebbero solo i mostri sacri che continuano a tornare in televisione, beati loro, però bisogna fare spazio anche ai giovani. Altri dicono uccidono la creatività. Tu non l'hai mai fatto, cosa ne pensi? Allora, io sono abbastanza polemica in questo, nel senso che credo sia giusto che ci siano diverse strade per arrivare all'obiettivo, a farsi conoscere, quindi anche il talento è giusto che abbia la sua fetta all'interno di questo. Ma tu per esempio li guardi oppure per niente? Io non li guardo assolutamente. Per scelta? Sì, per scelta, mi annoia vedere delle persone che si mettono in competizione. Onestamente, non, per me la musica non è mai stata. Cioè, per te la creatività non può essere associata all'idea di competizione. Non in quel modo lì, non scartando delle persone dicendo tu sì, tu no. La creatività può essere giudicata se io porto un brano mio e può risultare più bello rispetto a un altro. Capisco Sanremo, capisco la competizione sanremese, la comprendo. Sì. Non quella di dire tu hai l'X Factor o no. Però è vero che tu hai avuto, diciamo, la bravura, la forza, hai cominciato giovanissima, a 9 anni forse hai scritto la prima canzone. Quindi avevi proprio in testa questa cosa che dovevi arrivare. Esatto, assolutamente. Sì, però non tutti i ragazzi di oggi hanno la possibilità di, o la fortuna, o la forza di fare questo percorso. A volte hanno la forza ma non hanno l'opportunità. Quindi il talent come modo per entrare in televisione e farsi vedere non è una porta. Ha regalato, assolutamente sì, sono d'accordo. Mi dispiace soltanto che il talent sia l'unica porta. Io sono una delle pochissime, forse l'ultima negli ultimi 3-4 anni ad essere uscita tramite tramite la mia sola forza, la mia strada e non tramite un talent, no? Quindi questo è grave perché non è giusto che come dire, impegni così tanta attenzione il talent. Bisogna prestare l'orecchio anche a cantanti e artisti che arrivano da percorsi differenti da quello televisivo. Senti, il tema raccomandazioni, sai che non voglio farti parlare per forza dei talent visto che tu non li guardi e non ti piacciono, però questa edizione quotidiana di X Factor sarà condotta, non so, l'avrai seguito se sei sui social sicuramente, sì, dalla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Sarà condotto da no, la versione daily, quotidiana, diciamo, non l'X Factor serale, sempre con Cattelan, ma il giorno, non lo sapevi? No, giuro non lo sapevo. No, si è aperto un po' la questione della raccomandazione, perché la Aurora, magari sarà bravissima, io non la conosco, però forse non la conosci neanche tu, è doppiamente figlia d'arte, quindi sì. Dal tuo punto di vista, cos'è la fine, però, cioè nel senso un cerchio che si chiude? Diciamo una cosa, diciamo che quando sei figlia d'arte è sempre è una croce, non è mai un aiuto, nel senso che anche quando sei talentuoso il tuo talento viene sempre riconosciuto. Quindi spezzi una lancia a favore dei figli d'arte. Sì, sì, perché secondo me deve essere davvero difficile sapere anche se hai le stesse passioni. Certo, se ti piacciono le stesse cose è veramente... Esatto, se vuoi fare l'ingegnere, vabbè, pazienza. Ma se tu hai le stesse velleità di tuo padre, che vuoi fare la cantante, o quelle di tua madre perché vuoi fare la presentatrice, diventa un problema, perché o distruggi i tuoi sogni oppure combatti con questo mostro che sono i tuoi genitori, perché... insomma, non oso immaginare il figlio di John Lennon. Voglio dire, va bene, è un modo anche questo, naturalmente, per certo per vedere meno maligno di come invece è stato fatto, specie sui social, ma anche altrove, dove molti invece se la sono presa. Sono comunque certo, adesso al di là di tutto, non è perché non voglio evitare la polemica, perché non evito la polemica, però sono certa che se questa ragazza è stata messa lì dov'è a condurre il quotidiano di X Factor, un motivo ci sarà. Lo scopriremo tra poco. Brava. Senti, ma tu ti senti più siciliana? Perché sei nata in Sicilia, hai vissuto lì, però sei trasferita giovane a Torino? Io sono il vulcano, io sono nata ai piedi dell'Etna, quindi sono sicuramente sicilianissima. Però adesso dove vivi? A Torino. Che mi ha dato Torino, poche altre città avrebbero potuto darmelo, perché insomma sono cresciuta molto anche a livello musicale. Io amo tanto questa città, però appunto la mia impronta è quella. Ti manca la Sicilia? Ci torni spesso? Sì, sì, adesso anche grazie ai concerti riesco a tornare di più a casa. Senti, un tuo conterraneo, diciamo Piff, l'autore, il conduttore, sì, eccetera, sì, eccetera, certo, ha fatto il film La mafia uccide sulle estate, un film bellissimo secondo me, ha detto qualche giorno fa: noi siciliani abbiamo perso talmente tante occasioni, tutte le abbiamo fallite, che adesso non ci meritiamo più un aiuto dal resto d'Italia, sempre sul tema della regione statuto speciale, degli aiuti che arrivano dall'Italia, eccetera eccetera. Condividi un'analisi così impietosa della Sicilia o no? No, non la condivido. La Sicilia è una terra ricca di tante bellezze e deve avere la forza di rialzarsi. C'è da dire che rimanere a casa mia significa fare il triplo della fatica rispetto a tutto il resto d'Italia, però non meritare altri aiuti, no, perché? No, per il fatto che, per esempio, che continuano ad arrivare aiuti alla regione, aiuti economici, no? Laddove in altre zone d'Italia... Bisogna modificare delle cose molto difficili da modificare, a partire dalla direzione, in realtà anche dai siciliani stessi, dalle scelte politiche dei siciliani. Quelle però sono cose tanto radicate, tanto profonde, che non è facile non sono facili da cambiare. Senti, a settembre sarai a Milano, tra l'altro, è vero? Oh sì, sarò l'11 settembre, finalmente ritorno al Carro Ponte, non vedo l'ora. Brava, potresti anche fermarti, se è un invito, il giorno dopo venire in trasmissione, in studio, perché noi adesso facciamo questo spazio serale, 18, 20 e 30, lunedì e venerdì, ma il programma normalmente si può fare, va in onda il sabato, la domenica mattina. Ma è un invito ufficiale. Io mi fermerei volentieri, ma il 12 ho un altro concerto. Ah, va bene, dove? 12 e 13... Non me lo ricordo. Non te lo ricordo. Però c'è, va bene. Però c'è scritto. Se ti liberi, noi siamo qua e ti accogliamo volentieri, così ci suoni una canzone live. Volentieri, volentieri. Se torno con la chitarra, sicuramente. Grazie. Grazie a voi. Levante, ciao, buona serata. Ciao. Ciao. Niente, basta. Sospensione, così. Non c'è una canzone di Levante da sentire per salutarla? No. Borsa. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua, di nuovo buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Tra poco andiamo con i vostri interventi, prima titoli del TG3. Il Papa: il lavoro è sacro, ma non sia ostaggio della logica del profitto. Combattere la disoccupazione è grande responsabilità sociale. Monito di Mattarella: dal terrorismo i germi di una terza guerra mondiale, nostra responsabilità fermarla, migranti con loro umanità, fermezza con i trafficanti. Dall'ISIS, orrore senza fine, decapitato dopo un mese di prigionia l'archeologo custode del sito di Palmira, il corpo poi appeso ad una colonna sulla piazza. L'affondo di Monsignor Galantino sulla politica fatta di furbizie e populismi, la Lega lo attacca, governo e maggioranza no alle generalizzazioni. La rivoluzione nei musei statali, parlano i nuovi direttori, puntano su musei più moderni, in grado di richiamare più visitatori, in carica per 4 anni. Via libera del Parlamento tedesco al terzo piano di aiuti alla Grecia da 86 miliardi, sì di Schäuble che apre ad un alleggerimento del debito. Martina Levato ha potuto vedere il figlio ma non allattarlo, presto nuova decisione del tribunale sulla struttura dove vivrà la donna dopo l'uscita dalla clinica. Eccoci qua, cari ascoltatori, questa sera all'800 24 0024 vi chiediamo anche di che cosa bisogna vergognarsi veramente, perché notizia diffusa da Coldiretti in Expo ieri, gli italiani si vergognano di chiedere la doggy bag nei ristoranti, cioè la borsina nella quale puoi mettere il cibo avanzato al ristorante e portarlo a casa per non sprecarlo, un gesto nobile ma che per questa questione della vergogna evidentemente non decolla più di tanto. Allora noi vi chiediamo di che cosa bisogna veramente vergognarsi: buttare le scicche in spiaggia, abbiamo fatto degli esempi, oppure andare a piedi nudi come dice Andrea Scanzi se non ce li hai belli, questa è una cosa che è uscita quest'estate sui giornali, oppure a me una cosa che dà particolarmente fastidio, ve lo confido, è quelli che ti superano, tu sei lì in coda fermo, magari c'hai davanti a te 25 persone al check-in dell'aeroporto, quindi siamo tutti fermi, e c'è quello che piano piano avanza, passa e si mette davanti, ma perché se poi dobbiamo aspettare un'ora tutti? E queste sono le cose secondo me di cui bisogna vergognarsi. 800 24 00 24, anche questa sera mettiamo in palio un premio, questa sera mettiamo in palio il catalogo del MUDEC, va il catalogo del Museo delle Culture, edito dal gruppo 24 ore, 24 ore cultura naturalmente. Andiamo adesso con i vostri interventi e cominciamo con Laura Famulari, che ci chiama, ma è un'ascoltatrice ma è anche assessore a Trieste, così? Sì, buonasera. Prego. Sono assessore alle politiche sociali a Trieste. Sì. Ho sentito l'intervento, credo, dell'ex sindaco di Acqua Formosa. Volevo confermare che il sistema dell'accoglienza diffusa è realmente nato a Trieste nel 1999, allora c'era il sindaco, quando è nato il sistema dello SPRAR che poi si è diffuso in tutta Italia. Da allora noi abbiamo continuato così, tant'è che in questo momento abbiamo circa 900 rifugiati presenti sul territorio, e tra lo SPRAR e tutti coloro che arrivano dalle nostre parti della cosiddetta rotta balcanica. Quindi il sistema dell'accoglienza diffusa funziona, esatto. Per esempio a Trieste lo utilizzate e funziona? E funziona, nel senso che ci sono tantissimi appartamenti messi a disposizione da privati, diffusi nei vari quartieri della città, in modo da rendere anche dal punto di vista percettivo la presenza degli immigrati più, tra virgolette, accettabile, considerata anche quella che è la campagna mediatica. Ma che tipo di case sono? Ci tolgo una curiosità. Sono case di lusso? Sono case... Di tutti i tipi, sia in quartieri di lusso che in quartieri meno di lusso. Non nascondo che chiaramente... E soprattutto quando sono arrivate nei quartieri di lusso ci sono state reazioni soprattutto etero guidate, diciamo così. Però siamo riusciti complessivamente a tenere bene, chiaramente chiediamo anche noi che vengano spostati coloro che riteniamo essere in un numero eccessivo, soprattutto rispetto ad altri comuni della regione e le altre regioni d'Italia, perché c'è un livello di sostenibilità ovviamente. Però complessivamente siamo soddisfatti in questo momento. Cioè i proprietari delle case quindi incassano, quanto incassano? Ma dipende, perché sono gli enti gestori, che sono Caritas, per dire uno che è molto conosciuto, ma anche altri soggetti, che sono in convenzione con la prefettura e con il comune di Trieste, si occupano di gestire l'accoglienza, locano ovviamente questi appartamenti privati a seconda della necessaria presenza o meno degli operatori, perché se... Sì, ma adesso andiamo al sodo. Quanto si potrebbe parlare di business? Perché allora, qualcuno potrebbe dire il business degli immigrati? Tutto è business. Sui 300 euro, 2,50 vanno in tasca all'immigrato. Tutti gli altri sono soldi che entrano nell'economia locale. A Trieste parliamo di più di 5 milioni di euro nel 2014, ma non solo. Siccome sono prestazioni sulle quali si paga l'IVA, nella regione Friuli Venezia Giulia entrano 3 volte tanto il milione di euro il gettito di IVA, il gettito fiscale, che poi viene restituito in servizio ai cittadini, perché nel 2014 in politiche migratorie si sono spesi 2 milioni e sono entrati quasi 6 milioni di IVA. Va bene. Da un punto di vista economico, questi sono i conti, insomma, perché noi siamo partiti, grazie assessore, siamo partiti da una piccola città, Acqua Formosa in Calabria, però l'assessore di Trieste ci conferma che questa modalità, la stessa proprio, funziona. Può funzionare in questi modi anche nelle grandi città. Andiamo con Nino che chiama da Modena. Ecco, la ringrazio. Prego Nino, tocca a lei. Senta, vorrei sapere il suo parere per la nomina dei 7 tra virgolette stranieri nominati. Perché mette le virgolette? Perché mette le virgolette su stranieri? Perché fino a prova contraria dal 1954 siamo in Europa tutti concittadini di un nuovo Stato che è l'Unione Europea. Vabbè, adesso non è proprio uno Stato l'Unione Europea, non ha la configurazione di uno Stato, però insomma... ma c'è anche un Parlamento, lei sì. Mi insegna che c'è anche un Parlamento europeo, sì. E quelli che criticano fanno parte, quando hanno voglia, magari una volta l'anno, ai lavori del Parlamento europeo, o mi sbaglio? Sì. No, lei ha chiesto la mia opinione, io l'ho già detto, sono favorevolissimo al bando, a questo bando, assolutamente. Ho detto solo che spero che non sia un modo per dare una verniciata sopra un palazzo decadente, non so come dire, una mano di vernice fresca, perché i problemi poi che devono risolvere questi direttori musei sono tantissimi, o no? Tra l'altro, sì. Mi dispiace di parlare di me stesso, ma io ho scritto un libro di circa 300 pagine dal titolo I musei d'Italia, guida pratica. Adesso però non ce lo legga tutto e quindi... Quello che pensa lei trova completamente il mio accordo. Benissimo, Nino. Vuole aggiungere qualcosa? No. La ringrazio. Siamo ma d'accordo. Soltanto che stamattina leggevo anche sul giornale La Repubblica, sì. 7 stranieri nominati, ma no, siamo concittadini. Ma ho capito, cioè, lei sottolinea, si ferma la sua attenzione sul fatto che dire stranieri già è sbagliato, perché sono europei e quindi sono nostri, come dire, cioè fratelli europei da questo punto di vista. Adesso chiameranno tutti dicendo fratelli, ma come i tedeschi. Sì, siamo tutti europei, lo diceva anche Gabardini ieri, questo è vero. Angelo dalla provincia di Milano, cioè non sono cinesi, non sono chissà che vengono da dove, insomma, vengono da paesi con cui abbiamo una cultura molto condivisa. Angelo? Buonasera, eccomi qua. Eccolo. Grazie qua, prego. Grazie per la pazienza e di avermi chiamato. Sì. Ho provato a chiamare diverse volte perché era una domanda che mi toccava molto, di cosa bisogna vergognarsi. A me sovente, ecco, capita. Sì, prego. Non volevo interrompere, scusi. No, sono io che ho interrotto lei. Vada al punto. Sovente mi vergogno, tra virgolette, di essere italiano. Sì. Fra le tante cose, ad esempio, il razzismo, l'ignoranza della cultura italiana, della lingua italiana e dell'inglese, che è uno degli strumenti indispensabili oggi come oggi. Ok Angelo, però scelga una, così che partecipa anche lei al gioco, una sola, una di quella che la fa vergognare di più. È indispensabile il razzismo. Va bene, lei si vergogna del razzismo, quando vede un razzista si vergogna per lui. Grazie. È difficile, però, cioè è difficile. Chi è un razzista? Mi faccia l'esempio di un razzista. Salvini? No, ma io non è individuare una persona in particolare, sono i come comportamenti. Come distingue lei, esatto, da quali comportamenti lei identifica un razzista? Io faccio il ragionamento inverso. Secondo me, per fare delle differenze fra le persone, io parto, è una persona onesta o non onesta? Quindi è da dove si parte, no? Va bene, ho capito Angelo. Lei dice la razza non mi interessa mai in nessun caso, guardo altre cose. Se uno è onesto, se uno non è onesto, non guardo il colore della pelle, la cittadinanza. Se è un tedesco che viene a dirigere l'Uffizi non mi interessa, guardo se è bravo, se non è bravo. Andiamo con un altro ascoltatore. Daniele dalla provincia di Roma, buonasera. Ok, buonasera. Buonasera. Prego, Daniele. Eccomi qua, mi sto fermando con la macchina. Io invece volevo dire che la cosa di cui mi vergogno, ma che fondamentalmente dovrebbero vergognarsi tutti gli italiani, non è tanto di essere italiani, perché noi dovremmo essere orgogliosi delle nostre radici, di tutte le nostre peculiarità, a parte quelle negative, ma quella peggiore di tutti, purtroppo, la peculiarità negativa, è che noi siamo creduloni, purtroppo un popolo di creduloni. Come possiamo credere a dei politici che non si sono manco lontanamente tolti una briciola, delle briciole del loro stipendio, credere che loro si siano tolti le macchine e le case, quando le case che loro hanno, e lo potete verificare tranquillamente, sono in affitto nei centri storici, ammesso che siano in affitto, a prezzi irrisori. Quindi vi immaginate tutti i politici per strada con... Ma lei i si riferisce all'audio che abbiamo mandato all'inizio del programma, quello di Giachetti, che diceva che hanno rinunciato alle case parlamentari del PD? Certamente, ma stiamo scherzando, non rinuncia, come si chiama lì, il nostro capo del governo, si chiama primo, mannaggia, il premier, è il primo che, se volesse, potrebbe fare una mossa del genere, non la farà mai. Io mi abbasso lo stipendio, vediamo se gli altri in buona fede se lo abbassano. Non c'è bisogno di legge, c'è bisogno soltanto di onestà. Le macchine, per quanto riguarda le macchine blu, è vero, hanno tanto sventolato, non ci sono le macchine blu. Benissimo, ma io che abito a Roma, e tutti quanti romani che si dannano l'anima, perché noi non siamo Roma ladrona, noi siamo Roma che assiste al ladrocinio perenne e continuo. Basta fermarsi davanti a Via del Viminale, voglio dire, ti fermi lì al bar, sì, con il tavolino, ti prendi il tuo caffè e in 10 minuti vedi una sfilata di macchine, che non sono macchine blu, perché ormai le macchine blu non ci sono più. Ci sono grigie, 529, quindi ti prendono pure in giro. Allora, noi non dobbiamo essere più creduloni, questa gente, se vuole, può fare. Quello che deve fare è soltanto essere onesti, poi vergognarsi di essere italiani, ma manco per niente. Grazie. Perché noi abbiamo una cultura, noi ogni volta che giro per l'Europa, lei, per il mondo, trovo solamente gente. Non vuol giocare, non vuol partecipare anche lei con una cosa di cui vergognarsi? Certo, io vergognare di essere ancora creduloni, vabbè, di vivere dentro la foresta di Sherwood con lo sceriffo di Nottingham che ci frega i soldi. Anche Daniele gioca e partecipa con vergognarsi di essere creduloni, un po' vaga, ma insomma, grazie, buona serata. Andava a piedi nudi per la strada, vide come un'ombra mi seguì. Arriva, no, non arriva il ritornello, facciamo arrivare dopo. È una introduzione musicale che ci porta dove? Ci porta a parlare dell'anima. Questa è Anima Mia, perché io saluto Don Daniele Fort. Buonasera. Buonasera. Parroco di San Giorgio di Porcia. Porcia, sì, l'accento va diverso. Porcia, detto bene? È giusto, giusto, giusto. Lei, a chi ha criticato anche quest'anno il palio dei mussi che si fa con gli asini, le corse degli asini, sì, gli animalisti, eccetera, eccetera, un po' come è successo in grande col palio di Siena, lei ha detto: guardate, ve lo ribadisco, gli animali non hanno anima. Sì, bisogna distinguere. Cioè, però non bisogna maltrattarli. No, che c'entra? Sono due cose diverse. Gli animali, cioè, hanno una loro anima, certo, hanno l'anima che riguarda il loro essere animali, non sono persone, non hanno l'anima che hanno gli uomini. C'è anche un'anima vegetale, se vogliamo, nel mondo vegetale, questo lo diceva anche il vecchio Aristotele. Ma allora ce l'hanno o no l'anima gli animali? Hanno l'anima della loro specie, animale, ma non un'anima che è quella che caratterizza dell'essere dell'uomo, umano, dell'umanità. Quindi diciamo, hanno un'anima, come potremmo dire, minore rispetto a quella dell'essere umano? No, diversa. Diversa. Diversa, e non possiamo mettere tutto sullo stesso piano, tutto lo stesso valore. E quindi non lo so, cioè bisogna stare attenti. Io capisco perfettamente le ragioni degli animalisti e le condivido, sì. Perché per esempio io ho i cani e sono in difficoltà anche andare in giro per trovare un posto per andare in spiaggia, andare al ristorante, un bar, eccetera. Vabbè, ma queste però sono cose concrete, esigenze, ecco, di chi è un animale. Io capisco le rivendicazioni degli animalisti. Perché però... lei, scusi, diciamo anche una cosa che non ho detto, è lei che organizza la Sagra dell'Assunta proprio, il Palio dei Mussi? Sì, la parrocchia. Come tradizione l'organizza all'interno di questa manifestazione che ha più ampie spettacoli, arte e cultura. Fa tante cose, fa anche il Palio dei Mussi, che è una specie di corsa degli asini? Sì, ma è una cosa molto piccola, che è rimasta una piccola tradizione rispetto a quello che era invece una volta per il paese, con la però, sì, però scusi, c'è qualcuno che è una banale corsa degli asini, io ho visto anche le foto, e da regolamento possono correre sopra gli asini soltanto persone di corporatura esile, bambini. Ragazzi, insomma, giovani, ecco. Perché, però ecco, c'è qualcuno che vi critica e vi accusa di maltrattare gli animali? Sì. Sempre, io ricevo sempre delle mail anche da buoni cristiani che mi dicono: lei non segue San Francesco, lei non è neanche con Papa Francesco. Ma cioè, ridimensioniamo la cosa, non stiamo parlando di manifestazioni, di corse, è mezz'oretta di questa corsa sul prato degli asini, che è una rievocazione storica di una cosa ben più grossa che c'era nel tempo. Un rito antico, tra l'altro, ho letto che siete arrivati oltre la centesima edizione. Sì, perché una volta tutti gli allevatori della zona degli asini facevano questa corsa, e i principi di Porcia all'asino che arrivava in cima al campanile, perché salivano fin su al campanile, perché il campanile ha delle rampe, non ha delle scale, e i principi davano un premio, e questo premio naturalmente diventava come un premio di qualità oggi, no? Un prestigio. Ma questa è rimasta solamente così, una piccola manifestazione popolare. Però suscita sempre certe polemiche che secondo lei sono eccessive, sono smodate. Per esempio c'è un eccesso di indignazione secondo lei quando si parla degli animali? Si indigna generale, quasi più per gli animali che per gli esseri umani? Alle volte sì, alcuni esagerano, forse trovo questa esagerazione alle volte un po' fuori posto, secondo me. Cioè, non proprio perché non si tratta di nessun maltrattamento. No, non solo, ma perché lei, mi incuriosisce questo, voglio tornare al discorso, perché lei in questa dichiarazione, che diciamo poi noi abbiamo ripreso, ha detto gli animali non hanno un'anima. Adesso è un po' corretta, adesso ce l'hanno, ma c'è una gerarchia di anime. Ma no, dipende, perché ci sono varie teorie, cioè, però diciamo quella nella tradizione cattolica, che si rifà anche alla filosofia di Aristotele, eccetera, cioè l'anima infusa nell'uomo è fatta da Dio, è Dio che ha fatto tutta la creazione, e anche gli animali nella loro specie hanno una certa anima animale, come i vegetali, un'anima vegetale, perché è il mondo dove c'è la vita, ok? Sì. E quindi però non possiamo mettere tutto sullo stesso piano, non possiamo pensare che gli animali abbiano gli stessi diritti dell'uomo, è diverso. Non può essere, questo non può essere. E quindi lei ma questa è la posizione sua o della Chiesa? La posizione della dottrina cattolica, penso. Sì, non voglio parlare a nome del Papa, ma insomma. No, adesso. Ho studiato, c'è la posizione. Cioè, lei è un po' esperto di anime, dovrebbe esserlo, anche se non è il Papa. E quindi io le chiedo. Sì, esperto di anime, sì, anime che fanno fatica a vivere in questo momento, sì. E quindi, ma perché secondo lei invece c'è questo eccesso di attenzione? È perché secondo me un po' le persone poi andando all'eccesso diventano un po' idolatri, cioè, il rispetto degli animali, gli animali stessi diventano il loro idolo. Quindi in certi casi l'animalismo è una forma di idolatria che la Chiesa condanna. In certi casi può raggiungere. Non dico che tutti siano così, no, per carità. In certi casi può raggiungere, ma questa è una cosa condannata dalla Chiesa, no? L'idolatria. Beh, chiaro, l'idolatria sì. Cos'è, un peccato? Sì, un peccato veniale però questo. Veniale, però. Sì, io non vorrei sollevare una polemica che dopo ci trascina tutti quanti, però ci sono delle cose che però sono un po' che non sono coerenti neanche nella legislazione. Per esempio, è proibito sottrarre i cuccioli prima dei 3 mesi, prima della fine dello svezzamento, no? Sì. Nella nostra legislazione. Però in altre parti del mondo si possono sottrarre i figli immediatamente dopo che sono stati partoriti dalla madre, perché c'è la pratica della maternità surrogata, il cosiddetto utero in affitto. Cioè, mi parla a contraddizione, allora non riesco a capire. Alle volte la nostra società credo che stia andando tirando all'estremo certe cose. Certe... Ci sono più diritti per gli animali che per gli esseri umani, secondo lei, in certi casi? Non direi così, però direi che ci sono delle cose che non sono tutte coerenti. Comunque, viva il Palio dei Mussi, lo rifarete tranquillamente? Ma certo, anche perché i bambini si divertono e lo faremo tutti gli anni finché ci sarà possibilità. Rispettiamo le leggi. Non avete avuto asini abbattuti per infortuni, come si dice, dal Palio di Siena, no? Assolutamente no, perché non corrono. Non è che loro corrono... È una corsetta, insomma, è una corsetta blanda. Però pensate che anche per questo quante migliaia di... Non dico di insulti, ma insomma di... C'è una pagina Facebook che critica questa cosa, che ha migliaia di seguaci. Direi che quest'anno non ho ricevuto le migliaia di mail degli anni passati, perché forse non hanno fatto la petizione online, no? E mi intasavano il computer tutti gli anni. Però arrivavano addirittura migliaia di mail. Sì, per una corsa di asini, una corsetta dove non è mai morto nessun asino, mai nessuno si è fatto male. Mai neanche scivolato, insomma. Comunque, insomma, abbiamo capito che, secondo Don Daniele Forte, ma è la posizione della Chiesa, gli animali hanno un'anima, ma va messa in un'anima, io voglio dire così, minore rispetto a quella dell'essere. Diciamo le parole come stanno, perché l'essere umano è prioritario, è più importante, e quindi l'animale viene, ma viene dopo. Sì, certamente, c'è una gerarchia anche nella vita, insomma. Se no non mangeremo neanche l'insalata, neanche il coniglio, neanche il pollo. Certo, è vero. Il discorso, saremmo cannibali se tutti avessero l'anima allo stesso modo. Vallo a spiegare, appunto, a chi non è d'accordo con noi. Don Fort, grazie. Prego, grazie a voi, arrivederci. Buona serata, grazie. Buona serata, viva. Va bene, rientriamo e andiamo con le telefonate degli ascoltatori. Abbiamo Edi che ci chiama da Vicenza. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Tra parentesi, sarei anche una cosiddetta animalista, sì. Ma non chiamavo per quello. Comunque gli animali, al di là dell'anima, che anche molti umani non riconoscono l'anima negli uomini stessi, gli animali sono portatori di vita, soffrono, e devo dirle che c'è anche una filosofia di vita sul fatto di non usare gli animali, ma di convivere con gli animali qualsiasi essi siano. Vabbè, fatto di convivere facendo una corsa di asini, lei è contraria? Non lo so, dovrei vedere. È che usare l'animale che dopo lo butti là oppure lo mangi, perché anche gli asini vengono mangiati, non so poi se... Lei non mangia carne? No, io proprio non uso gli animali. Zero. E si può vivere, lo faccio, e poi chiudo, perché non era questo l'argomento della chiamata. Sì. Voglio dire, io da persona adulta capisco, a volte mi rendo conto che tanti animalisti, perché io amo anche l'uomo, non è che amo soltanto gli animali, amo la vita, no? In generale, a volte sono fuori, cioè non sono completamente equilibrati, oppure sono, magari si esprimono in maniera forsennata, che tu li prendi subito per fuori di testa o altro. È perché chi ama gli animali riceve ogni giorno un bombardamento di notizie negative. Che notizie che le negative? È difficile stare equilibrati. Io ad esempio le mail non le leggo la sera, se no non posso dormire. Le leggo la mattina e le assicuro che il dolore è atroce. Ma che dolore? Quindi, per cosa, scusi? Il dolore per quello che senti, ma non solo per gli animali, dico in generale, ma chi ama gli animali e ovviamente soffre di chi ama gli animali soffre più degli altri? Sta dicendo no, questo? No, soffre, ha un motivo in più per soffrire. Ma perché? Mi faccia un esempio la sera che non si addormenta perché di una notizia che riguarda il suo cane o gli animali che la fanno soffrire. Io ricevo tante mail, ricevo i siti, ricevo. Ma di cosa? Scusi, Eddie, di cosa? Di animali, che, cioè della tipo petizioni. Ma non se le faccia mandare però, perché è chiaro, se anche a me mi mandano le notizie di tutti gli esseri umani torturati sulla Terra, piccolo, non lo possiamo fare questo, capito? È una sofferenza inutile. Voglio fare qualcosa. Allora le dico che chi ama anche gli animali... Resti un attimo con noi, dobbiamo fare una pausa. Resti un attimo con noi, torniamo subito dopo. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Eddie, ha capito cosa le stavo dicendo? Se lei si fa mandare la sera le mail con le notizie negative sugli animali, poi soffre, non se le faccia mandare, ma non per cinismo, perché vale anche per gli esseri umani. Sa quante notizie di gente che muore nel mondo c'è? Certo, ma non è è una di congiunzione. Io non dico è meglio gli animali o meglio le persone. Io dico che chi ama anche gli animali soffre di più. C'è un motivo in più, poi la scelta mia è guardare la mattina. Ma questo è un esempio. Perché chi ama gli animali soffre di più di chi non li ama? Cioè, in quantità, è certo, perché ha più notizie negative che gli arrivano, perché adesso sul web... E chi ama le piante, per esempio? Ma no. se tagliano un albero, è vita, anche un albero è passato. Sì, io lo penso, sì, sì. Cioè, hai capito? Quando io ho visto tagliare degli alberi, cioè ci stai male, perché... Però io non riesco a soffrire se tagliano un albero, anche se so che è una vita. Io sto male, perché io vedo Dio, tra virgolette, ma neanche tanto, tra virgolette... In ogni cosa che vive è un altro. Però ha sentito cosa diceva Don Daniele Forte? Diceva che chi in alcuni casi non è il suo, forse, non credo, non mi sembra, mi sembra una persona tranquilla. Però gli animalisti arrivano a essere degli idolatri ed è un peccato idolatrare l'animale, farlo diventare un idolo oltre un certo livello. A volte, sa, si idolatra la macchina, si idolatra la discoteca, la droga. Ci sono anche tanti giovani, veramente. Sì. Io mi stupisco di loro. Ad esempio, oggi un mio amico mi ha detto che sua figlia è già a 19 anni, già fa i discorsi che faccio io, che ne ho abbastanza di più, anche se ho iniziato tanto tempo fa. Ma è un modo diverso di stare al mondo, no? Cioè, tu vuoi convivere senza violenza e con gli umani, chiaramente, perché io se posso ci parlo, anche perché la violenza non fa parte di me, naturalmente, anche perché sarei incapace, anche fisicamente. E è un modo di convivere con le specie. Va diverse bene. Da te, ecco, comunque scusi, ma ero in linea, ho detto ma guarda un po', no io sì. Vuoi aggiungere ancora una cosa? Velocissima, sì, però sì. No, io mi vergogno, non ci pensavo prima di voi, prima che lei dicesse di che cosa vi vergognate, sì. E ci sono tante piccole grandi cose, tipo anche abbandonare i cani per dire, oppure buttare le cicche, tutte queste cose qua. Avevo appena sentito il vostro comunicato, sì. E io mi vergogno come umano di non aver fatto nulla per Palmira e per il suo custode. Guardi, io le dico, adesso sono andata a vedere sul web questa persona che aveva anche una certa età, noi ci siamo lasciati prendere Palmira, che per me solo guardarla mi facevano venire i brividi, e non abbiamo fatto nulla, anzi abbiamo aiutato all'inizio gli oppositori di Assad. Adesso non voglio entrare nella politica, perché sa che Assad non era uno spinco di santo, anzi non è, perché è vivo. Ma guardi. Va bene, questa è la sua personale vergogna, questa qua di Palmira. Grazie Edi. Buona serata anche a lei. Tra poco sentiremo anche i titoli della 7. Adesso andiamo con un altro ascoltatore, Domenico da Roma. Prego. Buonasera. Buonasera. Chiamavo per indicare qualcosa di cui vergognarsi. Sì. Per esempio, mettere dei bambini di 10-11 anni su dei passeggini per evitare le file all'Expo. Questo lei l'ha visto fare? Fa ridere, eh? Sì, sì. Ah, sì, cioè, bambini di 10 anni nei passeggini? Sì, sì, sì, si vedono queste famiglie con questi bambinoni al 250%. Ma scusi, però bisogna partire organizzati. Cioè, io vado in Expo già sapendo, mi porto già il passeggino sapendo che col bambino di 10 anni, perché che lo faccio per passare la cosa. Sì, sì. Lei l'ha documentata questa cosa? C'ha le foto? Sì, sì, sì, ho le foto. E ce le manda su Twitter, l'account è @sipoffare24. No, dobbiamo assolutamente ritwittarlo, sì, perché questo secondo me vince stasera alla grande, perché bisogna sicuramente vergognarsi di una cosa del genere, simpaticamente, però... Sì, sì, simpaticamente, però... Però fino a un certo punto... Meditazione, sì. Però questo è sintomatico di un modo d'essere, di pensare. Va bene, grazie. Grazie. Domenico, buona serata. Andiamo con Esther da Milano. Buonasera. Buonasera. Senta, io quando comunisti facevano anche il Vangelo in chiesa, no? Cos'è che facevano? Scusi. Fastidio. Senta, non dava fastidio né a Sallusti né al Libero né a tutti quella squadra di giornali lì di destra, un po' estrema. Sì, ma che cos'è che non dava fastidio prima, quando i comunisti facevano il Vangelo? Quando i preti sì, criticavano i comunisti, perché anche, allora non dava fastidio. Allora questi giornali qui che ci fanno la morale, no? Io vorrei dirle che è meglio che mettono in prima pagina i preti che, come Libera e così, che combattono le mafie e che tanti ci hanno messo la pelle e che sono d'accordo con Salvini e così. Io penso che se un cane vede annegare il suo padrone o affondare una nave, salta nell'acqua, non è che dice lasciamoli annegare. Sai cosa penso? Quindi lei dice un cane ha più sensibilità di Salvini. Sì, perché ci sono della gente che muore, i cani vanno al cimitero a trovarli. Io ho avuto un cane che quando ho fatto trasloco, quando veniva qui a trovarci, è andato sotto una macchina, perché abitavamo da un'estremità all'altra e lui veniva qui a trovarci. Ma anche lei è animalista, Esther? Animalista anche lei? Era da un bar vicino. Va bene. Ma mio marito aveva tempo e la coccolava. Ecco. Ma Esther è animalista anche lei? No, io non sono animalista. Però non ha fatto questo paragone. Carne, e mangio la carne, la mangio. Ma in pratica queste cose qua si vedono. Io penso che dicono che bisogna che leggiamo i giornali, che ci informiamo, se non siamo ignoranti. Dico solo che è meglio prendere e piuttosto di prendere certi giornali e forse ci istruiamo di più a vedere i settimanali che ci fanno vedere i semeri. Va bene, adesso lei non le va giù il giornale di Sallusti, è meglio i giornali scandalistici con i sederi in primo piano. Vabbè, a lei non piace quello, giustamente se fa quello che crede. La 7. Il giudice per le indagini preliminari di Roma dispone il giudizio immediato per i 34 imputati del secondo round di Mafia Capitale il 5 novembre, la prima udienza del maxi processo nel quale confluiranno anche gli accusati della prima retata, in tutto 59 persone. Oltre ai Dominus, Buzzi e Carminati, la folta schiera di ex assessori, consiglieri comunali e regionali e dirigenti pubblici. Il Presidente della Repubblica Mattarella lancia un monito sul terrorismo, può introdurre nel Mediterraneo i germi della terza guerra mondiale. Sull'immigrazione invita ad avere umanità nell'accoglienza e fermezza con i trafficanti di esseri umani. Allarme dell'Unione Europea, 400.000 richieste di asilo da inizio anno a giugno. Orrore ISIS in Siria, decapitato l'ex responsabile del sito archeologico di Palmira, 82 anni, per 40 custode dei tesori della città, patrimonio UNESCO. Era stato arrestato un mese fa in Thailandia e caccia al responsabile dell'attentato davanti al santuario di Erevan. Si cerca uno straniero, ma le autorità sono convinte che faccia parte di una rete. Non ha agito da solo, sostengono. Turchia nel caos, divisa dalla crisi politica, il capo dello Stato Erdogan parla di elezioni vicine, ondata di attacchi terroristici, 8 soldati sono saltati in aria per l'esplosione di una bomba al passaggio del mezzo su cui viaggiavano, sospetti sui curdi del PKK, e a Istanbul spari contro la polizia di fronte a una delle sedi del primo ministro. Via libera del Parlamento tedesco al terzo piano di salvataggio della Grecia, la Bundestag lo approva a larga maggioranza, ci sono però anche 63 falchi nel partito della Merkel e poco fa è arrivato il sì del fondo salva stati che libera di fatto gli 86 miliardi di aiuti per Atene. Male i mercati che risentono del calo del petrolio e delle turbolenze cinesi. Fare l'attualità anche d'estate. Nuovo buonasera, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, e andiamo con ancora con i vostri interventi per un po'. Maria da Trieste, buonasera. Sì, buonasera signora Alessio. Io chiamo perché ho ascoltato la chiamata che ha fatto l'assessore Famulari a proposito degli immigrati. Sì. Ecco, allora volevo, perché mi sono molto arrabbiata, perché ho sentito delle affermazioni che non sono vere. Tipo? Prima di tutto è vero che ci sono dei privati che si prestano ad affittare questi addirittura caseggiati. Però non è vero che la gente, anche perché addirittura un caseggiato in Viale 20 Settembre, da quello che io leggo dal piccolo, era stato acquistato e poi affittato, e ci vivono dentro molte più persone, o ci vivevano, perché poi ci sono stati dei problemi e non so come è andato a finire, molte di più di persone di quelle che umanamente dovrebbero starci. Lei pensa che, lei è sicura che in quel caseggiato che dice lei stiano utilizzando il sistema dell'accoglienza diffusa di cui parlava l'assessore, oppure è un caseggiato occupato per altri motivi che non c'entrano nulla con quel sistema lì? No, allora, perché io sono due cose diverse, se no. No, io circa 2 mesi fa ho letto sul piccolo. Sì. Che questo caseggiato era stato acquistato da una società o da un privato, e subito dopo era stato affittato e c'erano dentro questi extracomunitari che avevano in una situazione di degrado, troppa gente problemi. In una situazione di degrado. E quindi, no, io non parlo, guardi, io non ho niente contro le persone. No, ma lei sta dicendo che in quel caseggiato ce n'erano troppi, troppe persone. Quello, e poi essendoci troppi probabilmente anche disturbavano. Sì. E questo è il fatto, perché io compro il piccolo. Va bene, va bene. E quindi questa è la prima cosa. Qualcos'altro ecco, che ha detto l'assessore? Che mi sta a cuore è che l'assessore parlava di 900, no? Se non ho sentito male, perché io vi ascolto sempre, 900. Comunitari. Sì. Allora io volevo far presente che, come ripeto, io le notizie le prendo dal piccolo, ci sono dai 100-150 extracomunitari che vivono nel Silos, che deve essere un vecchio magazzino, in condizioni precarissime, perché non c'è la possibilità di trovarle altri posti, anche se devo dire che la Caritas... Va bene Maria, grazie, è inutile però entrare troppo nell'interno chiaramente del caso Trieste, perché altrimenti stiamo qua a parlarne tutta la sera, ma ogni città alle sue situazioni particolari. Quello che diceva l'assessore è che il modello di cui aveva parlato il vice sindaco di Acquaformosa, dell'accoglienza diffusa nelle abitazioni private, è una cosa che secondo lei funzionava. Poi non credo che questo possa mai risolvere tutti i problemi dell'ospitalità e dell'accoglienza, ma neanche dal punto di vista dell'assessore, chiaramente, credo. Andiamo con chi andiamo? Piero da Firenze. Buonasera. Sì. E a forza di sentir parlare animalisti, vegetariani, ho deciso, divento vegetariano anch'io. Una sola condizione. Sì. Che tutti questi animalisti, e poi sono canari, gattari, riescano a convincere i loro animali a diventare vegetariani come me. A mangiare carciofi, a mangiare il pinto. Questa è una bella idea, una bella provocazione. No, perché loro, ma scusi, perché gli animali cosa mangiano? Cosa gli danno? Non lo so. Cosa gli danno? Carne di plastica? Cosa gli danno ai cani e ai gatti? A mangiare la carne per fargliela mangiare ai cani e ai gatti? Sì. No, mi scusi, perché qui si continua ad andare avanti. No, non lo so, io non ce l'ho un cane e un gatto. Cosa gli si dà da mangiare? No, carne no, ai gatti e ai cani? Io lo sto dicendo a lei perché lo sappiano loro. Si fa la suocera perché in tenda nuova. Perché ogni volta che telefonano, e bisognerebbe fare qui, loro smettano di dare da mangiare la carne ai loro cani e ai loro gatti. Convincano prima loro a diventare... Cari amici animalisti all'ascolto, avete sentito cosa dice Piero? La stessa cosa vale per la pietà. abbiamo pietà degli animali, abbiamo pietà anche per i bambini di Donbass che vengano dilaniati dalle bombe, abbiamo pietà per i bambini che muoiono affogati, no, devo avere solo pietà per i cavalli di palio di cena. Via, si raggiunge il paradosso, qui si sta perdendo proprio i canoni normalissimi del vivere da uomini, da persone più che da uomini. Sì. A me va bene tutto. Lei è d'accordo? Scusi Piero, lei è, Piero lei è d'accordo con quello che diceva prima Don Daniele, che diceva che gli animalisti in alcuni casi sono idolatrano gli animali e quindi diciamo diventa proprio un peccato dal punto di vista della Chiesa? Lei mi chiede se sono d'accordo. Io sono d'accordo contro tutti gli eccessi. Ripeto, io ho pietà dei cavalli, però mi permetta di avere pietà anche dei bambini che muoiono affogati o che muoiono sotto le bombe nel Donbass. Mi permettano. Va bene, Piero, grazie. Grazie per aver chiamato. E adesso giriamo agli ascoltatori animalisti. Questa cosa qua, ha detto Piero, diventerò vegetariano anch'io quando cani e gatti smetteranno, anzi, diventeranno vegetariani anche loro. Traffico. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Partiti da questa notizia oggi, un sondaggio della Coldiretti, siamo partiti da questa notizia per fare anche il gioco con gli ascoltatori e chiedersi di che cosa bisogna vergognarsi veramente, perché secondo la Coldiretti gli italiani si vergognano di chiedere la doggy bag, la borsetta dove mettere il sacchettino e mettere gli avanzi del cibo al ristorante per non buttarli via, e per questa vergogna, diciamo così, si perde la possibilità di fare un gesto nobile come quello di non sprecare il cibo. Buonasera Elisabetta Montesissa, responsabile campagna amica di Coldiretti, buonasera. Buonasera a voi. Allora, intanto quali sono i numeri? Perché qui dipende. Io per esempio ho detto come uno su cinque, un italiano su cinque lo fa, non mi sembra poco. Invece giustamente voi dite bisognerebbe far di più, quindi è troppo poco. Come diciamo dobbiamo che soltanto, siccome è un'abitudine molto positiva, dobbiamo sempre cercare di puntare in alto. Sì. Quindi un italiano su cinque è troppo poco, se poi consideriamo che il 28% considera questa tecnica vergognosa o addirittura volgare. E questa è decisamente una cosa, se si può dire, sbagliata, in quanto non avanzare, non buttare gli avanzi ma portarli a casa, oltre che essere una questione di risparmio e avere la possibilità di gustare un ottimo piatto a casa, è anche una questione etica di evitare di buttare il cibo, che è un peccato considerando che ci sono tante persone al mondo che muoiono di fame. Non dimentichiamoci che ogni italiano ha in media durante l'anno buttato circa 76 kg di prodotti alimentari nella spazzatura. Sì. Ovviamente è una percentuale che sta diminuendo, ma è ancora troppo alta. È incredibile però questa cosa, perché associata proprio alla crisi, al fatto di così tanta disoccupazione, al fatto che molti stipendi sono fermi da anni, chi ce l'ha? E nonostante tutto, lo spreco di cibo nei ristoranti ma anche fuori non diminuisce, non riusciamo a mettere in collegamento queste due cose. Come mai secondo lei? Diciamo che a casa gli italiani tendono a avere delle abitudini positive, l'abbiamo presentato durante una nostra indagine anche al nostro padiglione di Coldiretti, il cibo degli avanzi, quello che abbiamo chiamato il cibo del recupero, che è quello che arriva dalle nostre tradizioni. Quindi non dimentichiamoci che le antiche ricette come la panzanella, le zuppe, tutte quelle cose lì, oppure i pizzarei di Piacenza, insomma tutti i piatti tipici che sono diventati della tradizione, ma sono nati originariamente per non sprecare il cibo. E questi piatti si fanno ancora, secondo i vostri, diciamo, analisi, per quel che ne sapete voi, si fanno di più di prima o no? Diciamo che ci sono circa 20 milioni di italiani che sono tornati a recuperare il cibo e soprattutto a recuperare le antiche tradizioni e quindi a seguire le indicazioni, diciamo, le ricette della nonna. sono ancora troppo pochi rispetto a il cibo che viene avanzato, che viene comunque sprecato, ed è proprio un peccato che passi questa idea, come diceva il vostro sondaggio, di vergognarsi, o addirittura che è volgare, no? Chiedere la borsetta può essere poco elegante, diciamo, da un certo punto di vista, però quanto è volgare invece sprecare il cibo che è sacro? Questo non si pensa mai, no? Quando magari passiamo dietro ai ristoranti, vediamo i bidoni dell'immondizia pieno di cibo, questo dovrebbe, come italiani, farci vergognare pesantemente. Tant'è che un esempio ce l'ha dato anche la Michelle Obama, che quando è venuta a Roma in un nostro ristorante ha chiesto la doggy bag per portarsi a casa. E rispetto a questo, diciamo che noi come Coldiretti, al padiglione di Coldiretti a Expo, siamo partiti proprio e abbiamo lanciato la Agri Bag. Mm-hmm. Sono partiti gli operatori agrituristici del Veneto con i loro Agri Chef, che hanno lanciato questa confezione che adesso viene proposta a tutti i visitatori come kit, diciamo, di sopravvivenza per le lunghe code di attesa, no? Quindi contiene un pasto con prodotti ovviamente veneti, italiani, certificati da Campagna Amica, ma che poi diventerà la doggy bag, che noi abbiamo chiamato agri bag, e tutti gli operatori agrituristici la proporranno ai clienti, per evitare che i clienti si vergogni, ma anche per evitare che esca con la borsina di Stagnola, avrà questa bella confezione colorata, magari potrebbe essere anche... E può invogliare, un po' di tutto. Comunque ribadiamo, insomma, non bisogna vergognarsi di chiedere il cibo avanzato, non si fa per una questione di portafoglio, lo possono fare anche le persone che stanno bene, è proprio per una questione di rispetto del cibo che è sacro, ed è un gesto nobile, quindi in quanto tale è anche un bel gesto che va oltre il concetto di volgarità della sacchettina, eccetera. Oggi però avete fatto voi col diretti un risotto da record. Ma non è che avete sprecato qualcosa anche lì, no? Assolutamente. L'avete mangiato tutto? I visitatori di Expo hanno potuto apprezzare questo risotto da record, fatto ovviamente solo con vialone nano, un risotto all'isolana, che è la ricetta tipica di Isola della Scala. Abbiamo distribuito oltre 1000 porzioni a tutte le persone in coda per visitare Palazzo Italia. E stasera abbiamo replicato. È già finito tutto. Meno male. Ne sarebbero voluti diversi quintali. Quindi non ci avanza niente, insomma, da portarci qua a Radio 24. Niente. Niente doggy bag. Siete sempre benvenuti. Va bene, grazie a Elisabetta Montessissa di Coldiretti per essere stata con noi per parlare di questo argomento, della doggy bag, e quindi, insomma, forza italiani, fatevi avanti, dateci dentro, non vergognatevi. Andiamo, tra poco diremo anche invece chi stasera ha giocato con noi, ha vinto il premio, il catalogo del MUDEC, mettendosi in gioco e parlando di che cosa invece veramente bisogna vergognarsi, cose più serie. Andiamo con Emilia, che chiama da Livorno. Buonasera. Salve, buonasera. Dunque, io voglio soltanto trasmettere un'emozione molto forte che provo spesso, di vergogna. Io mi vergogno quando mi capita, anche se raramente, di entrare in un negozio, diciamo, di lusso, borse o scarpe o gioielli non ci entro mai, ma insomma, comunque, magari fuori a quel negozio a poca distanza c'è una persona che chiede la carità, che sia di colore o sia bianca, sia europea. Lei sia si vergogna, afghana, in questo caso è proprio lei che si vergogna. Mi vergogno per me, mi vergogno per gli altri che lo fanno, e mi vergogno dell'indifferenza. Ma cosa pensa però a quel punto? Cioè, le passa la voglia di comprare la borsa di lusso? A me passa la voglia, e qualche volta non sono nemmeno riuscita ad entrare nel negozio e ho pensato che non era giusto eticamente. Però capisco che un gesto individuale non può risolvere una situazione. Quindi io mi vergogno come essere umano di questa grande differenza fra ricchi e poveri, che adesso in Italia pure si sta facendo sempre più evidente, e mi vergogno dell'indifferenza che noi come esseri umani riserviamo a questo problema, perché ne parliamo tanto teoricamente, però poi nel momento in cui dobbiamo fare la nostra spesuccia o dobbiamo fare il nostro viaggio o toglierci il nostro sfizio, lo facciamo tranquillamente pensando, vabbè, lo posso fare, lo faccio. Ecco, secondo me questa non è una visione etica. Grazie Emilia, grazie, grazie anche a lei per averci chiamato e aver giocato con noi. Mettersi un po' a nudo. Roberto da Milano, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io mi vergogno perché quando, oddio, ho da fastidio, diciamo, quando salgo sulla metro, sì, e arrivo alla fermata che devo scendere, non ti fanno assolutamente scendere. Vogliono prima salire loro. Allora io una volta... Ah, quelli che vogliono salire prima che gli altri scendano, è vero, ci sono quelli lì. Allora viene un po' da lì perché dico, allora tu non mi fai scendere, allora mi ricordo ancora sta scelta, la settimana scorsa. Mi sono andato urtato contro una orientale, si è messa a ridere. E c'erano due turisti tedeschi con lo zaino che mi fanno ya, come dire, sì. E sono messi a ridere anche loro. Vabbè, ma lì è proprio una questione di attimi, sa, perché la gente è molto nevrotica, molta fretta di salire, il tempo è poco. Sì. E quindi se uno esita un secondo nell'uscita, c'è subito qualcuno pronto a scattare. Però bisogna avere anche un po' di pazienza, perché lì non credo che sia una questione, cioè personalmente non credo che possa succedere che uno preso dalla fretta fa un passo prima dell'altro, no? Anche se non si dovrebbe. Perché hanno questa fretta, mi dice lei, perché non ti fanno prima scendere, per educazione uno deve scendere e poi certo sale, ovviamente. Ma anche per una questione tecnica, perché se quelli salgono poi dopo tu non riesci più a scendere. Grazie comunque, anche a lei buona serata. Sonia da Roma. Pronto? Prego, Sonia. Sì, salve. Allora, io volevo dare una buona notizia innanzitutto al signore di Siena, se non sbaglio, che può diventare immediatamente vegetariano, perché io ho tre cani. Era Piero da Firenze, sì. Sì, ecco, ho tre cani e un gatto che sono assolutamente vegetariani, ci sono delle marche che producono proprio linee vegetal, ma non solo, le dirò, esistono anche delle linee vegane. Io personalmente sono vegana. E oltretutto ho dei valori ematici che sono perfetti. Scusi, lei è vegetariana, prima. Mi sono distratto. No, io sono vegana. Vegana, io sono vegana. Quindi i miei cani però sono vegetariani. Ma i cani, giustamente mi fa notare Leonardo dalla redazione, dalla regia, gliel'hanno chiesto loro di essere vegetariani o è una scelta sua che ha fatto lei? Allora, le spiego. Cioè, gliel'ho imposto. L'ho fatta io, sì, per ragioni etiche, perché trovavo assolutamente discrasico avere io una linea... Lei vegana e loro no. Esatto. Però bisognerebbe sapere cosa ne pensano loro. Guardi, le posso dire quello che sicuramente troveranno più gustosa, magari la carne, questo non glielo posso dire. Però le posso dire che i valori ematici sia del mio gatto che dei miei tre cani sono sicuramente migliorati in base, non so, colesterolo. Ma che mangiare poca carne faccia benissimo, questo non lo metto in dubbio. No, non mangiarla proprio. Non mangiarla proprio, ma anche mangiarne le assicuro anche questo. Ognuno questo, può fare quello che vuole. Dipende. Comunque, questo la cosa di cui mi vergogno di più di tutto in assoluto è, capisco che chi sposa una linea così radicale magari può non comprendere, però quello che mi vergogno fortemente è vedere persone che ancora girano con la pelliccia, quello sì, quella è una cosa che veramente mi indigna, perché posso capire... Beh, è un classico, questo della pelliccia è un classico, però adesso non c'è quasi più nessuno, onestamente, sono quasi tutte pellicce finte, non sono vere. E comunque è anche quella la trovo di cattivo gusto, perché comunque è come se io mi mettessi lo scalpo di una persona addosso. Beh, cioè, però se è finto, scusi, volgare, se è molto finto, volgare. È di cosa... No, io la trovo comunque volgare. Volgare, posso capirlo. La pelliccia comunque è una cosa di cui mi vergogno, cioè mi vergogno di appartenere al genere umano ogni volta che vedo persone in pelliccia. Va bene, grazie Sonia, grazie. La ringrazio, buona giornata. Buonasera. Allora andiamo a Federico che chiama da Treviso. Forse l'ultima chiamata per questa sera. Federico, prego. Pronto? Sì. Sì, salve, buongiorno. Ho sentito l'intervento della signora che chiamava dal Veneto, animalista, convinta, eccetera. Sì. Dico, il fatto comunque questi animalisti, cioè, sono sempre stati, ma che siano sempre più presenti, secondo me è dovuto al fatto che sulla diffusione di Facebook si leggono certe cacchiate in maniera martellante. Io ho alcuni amici che hanno dei profili. Sì, è vero che gli animalisti vanno forte su Facebook, è vero. Postano di continuo cose, ti sollecitano tantissimo. Adesso poi c'è tutta un'ironia di ritorno però, cioè, che va contro gli animalisti, anche questo c'è. Sì, ma per fortuna, voglio dire, sì. Per forza, perché se uno però gli animalisti sono anche un po' un furto di internet, ci si informa in una certa maniera e questo? Sì, sì, se vuole, per stare nel tema della trasmissione, mi vergogno che ci sia gente che non ha filtri rispetto a quello che acquisisce su internet, sì, o altrove, nel senso che poi dopo su internet c'è anche un sacco di gente che crea, che crede alle scie chimiche, al signoraggio, a complotti vari, dischi volanti. E gli animalisti lei li mette alla stregua di questi, di complottisti che... No, non per forza. Che però mi dicono che si vergognano del genere umano se qualcuno porta la pelliccia. Io ho una giacca di pelle, un chiodo, paninaro, anch'io, e praticamente non mi vergogno. Sì, no, ma che non si vergognerei nemmeno io. L'ascoltatrice che si vergogna per noi, perché secondo lei siamo un'offesa al mondo animale, anche se è pelle finta, perché ormai è quasi tutta similpelle, insomma. Però questo va bene, grazie, dobbiamo fermarci qua. Diciamo che per stasera vince il catalogo del MUDEC dei 24 ore cultura, Domenico da Roma, che secondo il quale la cosa di cui bisogna vergognarsi è portare bambini di 10-11 anni, dell'età di 11 anni, dentro dei passeggini, giusto per non fare la fila a Expo o altrove, perché ti fanno passare prima se il passeggino, e questa in effetti è una cosa di cui vergognarsi. Grazie a tutti, buona serata. Io ringrazio Cristian Goldoni, Leonardo Siligato, Andrea Piana, grazie a Gala in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ci risentiamo domani. Ciao a tutti da Alessio Maurizi, buona serata. Ciao.